Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stiamo testa di cazzo internazionale. Stiamo parlando, stronzo che non sei altro. Ma che dici? Cosa stai parlando? Una volta facevi il giornalista anziché insultare. Pagato da Assad. Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È collegato con noi, non so se è rimasto in Puglia, ieri era lì, se non sbaglio, a Nocera, Foggia e quant'altro. Allora Salvini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno da Chieti e poi direzione Ascoli, Macerata, Jesi, Urbino e poi Emilia. Beh, bello, si sta visitando un po' tutta l'Italia, ci fa piacere. Ho dei posti bellissimi, con degli imprenditori straordinari che chiedono, e su Radio 24 penso sia il megafono più utile per dar loro voce. RTL, vabbè, dai, ma nulla, adesso stiamo... La zanzara della Radio 24, giusto? Sì. L'unica radio che io posso sentire. Grandi! Sveglia alle 7, una giornata di lavoro duro, tanto lavoro per portare a casa un tozzo di pane. Esci dal lavoro, vai a casa, ti cambi veloce, corri in palestra, ti spacchi il culo anche lì, torni a casa distrutto, pensi di andare a dormire, invece no, non si dorme. Non si dorme prima di aver ascoltato il podcast della zanzara. Siamo al top. Siamo al top. Innanzitutto volevo dire che grazie a mio figlio si è aperto un orizzonte durante il periodo del lockdown e io ho scoperto la zanzara. Molto bene. Ha fatto crescere questo tipo di approccio a questo tipo di trasmissione, perché mi ha fatto considerare un'umanità che io non conoscevo. Questo è vero. E tutto sommato io non la critico, ho un approccio misericordioso, nel senso che capisco che esiste un altro. Allora non mi faccio le seghe mentali all'apparenzo che interviene semplicemente per dire oddio. Senta signora mia, dopo sta pippa sociologica che ci sta facendo, signora, se qui chiama uno che dice che gli piace far vedere la propria moglie, il mio è cristianesimo vissuto, è una cosa diversa. Ma signora, è una cosa molto stai qui ad ascoltare, questo non è un convegno di derisa. Esatto, sì, primo, sì. Se io da 10 anni a questa parte sento gente che vuol farsi ingroppare la moglie da altre 4 persone, il mio non è bigottismo, dico andate a fare in culo. Lei poi può fare tutte. Ma tu potresti anche non esistere in quella trasmissione, perché non servi a nulla. Senta, come attacca, signora. Come attacca. Io volevo parlare con Cruciani. Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione. Grazie. In diretta da Roma, dal suo studio magico, come direbbe il brasiliano David Parenzo. Eccoci. Buonasera. Qui, applausi. Buonasera, applausi. Cari amici, ed è soltanto martedì 15 settembre. Che cazzo vuol dire? Siamo, scusa, appena all'inizio di questa nuova stagione. Già ti sei rotto i coglioni. Io mi sento come fossi il 29 luglio del 2021. come fossi il 29 luglio del 2021. Cioè, vorresti già chiudere baracche e burattini, no, diciamo. No, non ho detto questo, tu solo sei mi già sento stanco, come sei mi già sento stanco. Come fossi il 29 luglio. Intanto comunque salutiamo subito e ringraziamo il nuovo direttore Stefano Feltri. Giù il microfono, giù il microfono, cominciano le leccate di culo di Parenzo. Quando iniziano le leccate di culo di Parenzo a direttori, giornalisti, imprenditori, eccetera eccetera, capi di grandi aziende farmaceutiche, diciamo una cosa così, no, a caso, diciamo, allora a quel punto io butto giù il microfono. No, però non abbiamo ringraziato la 7 oggi il dottor Ghigliani. In collegamento questo... invece, in collegamento invece, sì, da Abano Terme, sempre dal suo lettuccio Mamma magico, mia. Stavolta ma quella meno sì è una marchetta, quella è una marchetta. Rilassatissimo dopo perché un massaggio al sale. Alberto Gottardo, al applausi. Questa è la, è la marchetta vera, perché non paga. Dal Panoramic Plaza di Abano. Saranno cazzi suoi se pago o no. Porca miseria. Saranno cazzi suoi se pago o no. Perché dice anche il nome, questa è la marchetta vera che io evidenzio. E ti dirò il nome anche di Miriam che mi ha fatto il massaggio. Non era romantico. Mamma mia. Non era romantico, purtroppo. Questa... Allora ragazzi, io sorvolo sulla notizia che diciamo anche essere la notizia del giorno, almeno secondo la Zanzara. Il prete dell'accoglienza ammazzato da un tunisino senza permesso. Io non lo voglio dire che questo qua era un tunisino senza permesso di soggiorno. Non lo voglio dire che questo era un tunisino senza permesso di soggiorno, perché non bisognerebbe dirlo. Bisognerebbe dire semplicemente che una persona con dei problemi mentali, con dei problemi che riguardano sicuramente la sua vita, eccetera, eccetera, ha ammazzato un prete che era il re dell'accoglienza. Io non lo voglio dire che questo qua era ma un tunisino dall'inizio senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno, la fonte dell'odio razziale passa anche attraverso le tue perché, parole, scusa, non bisogna dire, perché non uno dice perché, la realtà, perché se questo avesse avuto il permesso di soggiorno e il passaporto in ordine, allora poteva ammazzare il prete. No, non ho detto questo, se avesse avuto la cittadinanza italiana il prete sarebbe stato meno morto. Ma ragazzi, che cazzo di ragionamento è? C'ha ragione, c'ha ragione il miserabile che vive a scrocco all'albergo di Abano, mi spiace. No, miserabile un cazzo, c'ha ragione, miserabile. Miserabile sei ho detto tu? Che hai ragione. Okay. Aveva fissa dimora? No. Aveva il permesso di soggiorno? Beh, no. Allora, era di questo Varese? Rende più grave. Era di Como? Era di Padova? No, questo era tunisino. Ho detto tutte cose fattuali. Mi permetterete di dire che il prete, il grande re dell'accoglienza, io non lo conoscevo nemmeno, questo signore che per carità mi assomiglia pure, se andate a vedere le foto sembra chi è che sta tirando no, su no, io, che io sta sospirando sospira. Abbiamo dimenticato una cosa fondamentale, è il miserabile da Roma abbiamo dimenticato una cosa fondamentale, cioè oggi tu compi 56 anni, no, 54 56. Che cazzo dici, 54? E Zangrillo ha detto che stai benissimo, che sei in piena salute, quindi auguri, ragazzi, evviva. Ha detto a parte gli emorroidi. Sì, intanto Briatore dice che ha subito quindi una cosa auguri molto meno grave di una polmonite. Esatto. La malattia del Covid si può guarire. Certo. Ci rende vulnerabili sicuramente. Ah. Però, ragazzi, io vi dico che si può guarire. Dato due giorni magari, due giorni. Per il resto, molto meno di una polmonite. Oltretutto voglio anche ringraziare Daniela Santanchero che l'hanno criticata di tutto. Il problema del coronavirus è un problema fortissimo. A un certo punto ha detto anche che ha preso una polmonite peggio. Eccola qua. L'anno scorso hanno avuto una polmonite peggio di questa qua. Tachipirina. Non voglio minimizzare la malattia, ma voglio solo raccontare quello che mi è successo. Lo scorso anno io sono stato molto male, ho avuto una polmonite, sono stato ricoverato anche in quel caso lì al San Raffaele e vi garantisco che sono stato malissimo, sono stato una settimana e più in ospedale malissimo. Hanno voluto distruggere me e la Sardegna. Ma chi, ragazzi, contro Briatore si è scatenata una cagnara. Ha fatto tutto lui. No, si è scatenata una cagnara incredibile. Hai messo a repentaglio la vita dei tuoi dipendenti. Certo. Ma che vuol dire? Quelli sono andati lì responsabilmente e secondo... No, non è che sono andati lì con la pistola puntata alla testa. Nessuna temperatura misurata. Ma quello vedremo se sono stati rispettati. Il barman ha malato e nessuno sa che fine ha fatto il povero barman in terapia intensiva. Ma tu lavori per Confindustria o lavori allo spiro? diesel. Ma perché? Come fai a sapere che non hanno controllato la temperatura? Esatto, ma che cazzo risulta? E poi soprattutto nomi dati falsi, gli avventori davano nomi falsi. Quello è colpa di dati falsi, mica colpa di briatore. Non sono gli avventori, mica la polizia. Non mi sembra un'azienda che abbia rispettato, a differenza di quelle della Confindustria, le regole anti-Covid. Ma come fai a saperlo? Non mi sembra in alcun modo. Ma poi come sta la prostata di Briatore? Perché tutti a parlare del Covid. E la prostata? C'ha la prostatite acuta. C'ha la prostatite acuta. Cioè, non è che una cosa che guarisce in due giorni la prostatite. Poveretto. Perché questa battaglia che hanno fatto anche contro di me era per distogliere la gente, no? Contro di me, contro la Sardegna, eccetera, eccetera. Hanno preso due simboli, la Sardegna, Costa Smeralda, e il bignonarchi locale forse più conosciuto al mondo. Ecco, e lì Ale è stato la loro, il loro modo di fare comunicazione. Ma adesso basta, dobbiamo cominciare a pensare di riprendere, perché se no non ne usciamo. Ciao ragazzi. Basta bollettini giornalieri, bisogna far ripartire l'Italia. Ma ha ragione su questa cosa qua. Basta con questo bollettino giornaliero di rottura di coglioni. Ma nessuno dice basta con questo bollettino giornaliero di terrore. Ma meno male che è aperto. Voi lo volete richiudere. Ma voi, nessuno vuole chiudere voi niente, con la coda anzi. Tra le gambe. Ma non voglio chiudere proprio nulla. Vigliacchi. Io anzi. Ma dai, non voglio chiudere nulla. Anzi, ho mandato i miei figli a scuola. Io, ma scherziamo, fin dal primo giorno. Mascherina. Lavarci le mani, mantenere la distanza quando c'è gente. Fallo però. Però si deve rimettere in moto il paese. Ma nessuno dice io il contrario. I bollettini dovrebbero farli una volta alla settimana, non continuare a fare i bollettini giornalieri. Sul comitato tecnico continuano a metterti in testa questi morti, queste cose. Ma anche continuano? Quando i bollettini sono positivi, li girano i negativi. Li girano in negativo. Ora ragazzi, è successo un caso a Napoli. Un pizzaiolo, un tale Vesi, che io non conoscevo, credo che abbia aperto una pizzeria anche a Milano, ha fatto un video in cui ha messo fuori dal finestrino il suo braccio con un Rolex a Milano, in cui ha detto: a Milano non ti tagliano il braccio per rubare il Rolex. Cosa oggettivamente vera, cioè, no, che non è vero, ci sono, è vero che ci a Napoli non ti tagliano il braccio settimanali, sì, cioè, di bisogna Rolex, vedere fatte da chi, ma comunque fate da napoletani, ma comunque a Milano, ma no, ma lasciamo perdere questo, è stato massacrato, minacciato di morte, non può uscire da casa, ma ti rendi conto, sputano davanti alla pizzeria locale a Napoli, passano davanti, lo insultano semplicemente perché ha fatto un video, poi si è pentito questo qua. Ma che cazzo vai a fare? Fai il video e poi ti penti e lo togli? Ma che cazzo fai il video? Hai fatto un video, significa che ci credi in quello che dici, che a Milano puoi circolare con il braccio fuori con Rolex e non te lo tagliano per rubarti il Rolex. Ma è fattuale, è fattuale. Poi ti penti, ti cospargi il capo, dici: ma che roba è questa cosa di pentirsi semplicemente perché ti minacciano? Petto in fuori, devi dire sì, è vero, non rompetemi il cazzo. Amici, la differenza tra Napoli e Milano, sapete qual è? Qual è? Questa. Dicelo. Che puoi camminare con il braccio fuori, sì, con un Rolex, e non ti tagliano il braccio per subigliare. Ragazzi, ma questo qua è il manifesto della zanzara. Cioè, questo napoletano qua, questo pizzaiolo napoletano, è il manifesto della zanzara di tutto quello che io vado dicendo da anni. E infatti viene minacciato questo qua, viene minacciato di morte, è costretto ad andare a una radio locale napoletana per dire: oddio, oddio, offesi napoletani, mi pento, mi scuso, mi minacciano, eccetera, i miei figli, la mia famiglia. Questo è il problema, le minacce, non quello che ha detto questo signore. Magari ma l'ha detto in un momento in cui voleva fare una battuta, non lo so, a mio parere è vero. Ovviamente è un'esasperazione, ma è vero. E questo qua lo sai che fa? Cambia idea dopo un secondo, semplicemente per le minacce. Ma cosa sei, Vesi? Cosa sei? Ah, papà Renzo, li mortacci tua con tutti i soldi che pi. Ma io dico, vatti a fare una controllata alla prostata, stai sempre a pisciare in diretta. Ferro Cruciani delle cavassere con pappagalla pietoso. Logica, spazio, tempo. Modul block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, quando sento la vostra trasmissione capisco che il suffragio universale è una cagata pazzesca. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negate, c'è un po' di sano qualunquismo. Stranieri irregolari con tanti provvedimenti d'espulsione a suo carico mai eseguiti, uccide un prete che invece di servire messa passava il proprio tempo a servire colazione agli immigrati. Tutto molto buffo. Tutto fattuale, ragazzi, adesso non so se non diceva messa e passava il suo tempo, eccetera, ma tutto estremamente fattuale, fatti questa volta, in questa trasmissione, fatti, ma caro Parenzo, fatti non foste a fatti, vivere come brutti, fatti, ma per seguire virtute e conoscenza. Ascoltare, fatti non foste per seguire la zanzara, fatti non foste per ascoltare la zanzara, questa sta, è bella. Si sta ribaltando nella sua tomba il poeta. La De Mari interviene, nessuna nazione può tollerare l'invasione, arrivano maschi in età militare. Silvana De Mari, quella che disse, lo ricordo a tutti gli ascoltatori della Zanzara, disse che il sesso anale fa male. Ma fa qual è il collegamento, tra il culo e gli immigrati, scusami? Almeno parla di una cosa ricordare, volevo ricordare semplicemente che il personaggio è quello, disse che il sesso anale fa male, che mettere nello sfintere è una cosa negativa che provoca delle lesioni pazzesche. Provoca le carie, anche ricordiamolo. Anche le carie, questo è interessante come teoria, secondo me si può aggiungere come teoria quella del poeta. La De Mari comunque sostiene che c'è un'invasione perché arrivano maschi in età militare. Come si distinguono gli immigrati dagli invasori? Gli immigrati sono donne, bambini, uomini, nonni, si spostano le famiglie. Come si riconoscono gli invasori? Maschi in età militare, 16-45 anni. Mamma mia. Nessuna nazione può tollerare un'invasione. Chi lo fa sta sacrificando i suoi figli. Giordano, Mario Giordano, caro Davide, Mario Giordano. C'è un collegamento perché i due scrivono dallo stesso giornale. Sì, infatti. D'accordo, però la voce è più o meno quella. Anche. Allora, Mario Giordano dice che l'unica violenza. Donato! L'unica violenza è quella dei politici che dicono che i mandanti dell'omicidio di Willy, eccetera, sono Salvini e Meloni. Sentiamo Giordanone, vai. L'unica violenza che vedo qui è quella, la violenza che attribuisce a una parte politica la fa diventare mandante di un omicidio. Giusto, quella giusto, è la Giordano, violenza, giusto. Perché non c'è ma nessuno parla di mandanti. Fermati, perché Sara Manfuso non è d'accordo su questa posizione? Sentiamo, e perché Sara Manfuso non è d'accordo? Andiamo allo scontro. Giordano Manfuso. Dai piedi bellissimi visti a Roma della Manfuso. Come no, è come no. Quello che sta accadendo, direttore. Ecco, direttore, non abbia. Direttore, non sta succedendo un'altra cosa. È una campagna elettorale bieca, bieca, schifosa. Nel momento in cui, guardi che sto urlare anch'io e lo sa. Non puoi. Allora. Ora ragazzi, io come sapete non sono contro Bill Gates, non me ne frega niente di Bill Gates, di tutte queste teorie dietrologiche sul vaccino, eccetera, fa benissimo. Ecco, adesso dice però. No, però, ecco, però quando eccola, Bill Gates eccola. Dice, e se lo poteva risparmiare il signor Bill Gates, se lo poteva risparmiare che la pandemia finirà solamente tra due anni, ora a nome di chi cazzo, cioè perché dovrebbe dire queste cose, che ne sa il signor Bill Gates? Vabbè, potrà saperne più di Gottardo, più di me, più di Parenzo, ecco, d'accordo, non lo so, può darsi, bravo. Può darsi, col può suo darsi. No, io toglierei il può darsi, no, col suo perché secondo te è più credibile Bill Gates o Gottardo? Ma ragazzi, ma cosa stai dicendo? Ma Bill Gates non trasmetterebbe mai da un albergo con marchetti? Ma che gli alberghi se li compra tutti Bill Gates. Senti l'invidia. Non senti è costretto a trasmettere. Non è costretto in un albergo lussuoso come il mio. Ma lo frequento in quella stanza del cazzo. Lo frequento pagando io con i soldi miei. Zitti tutti e due. Perché io devo sentire da Bill Gates che la pandemia finirà solamente tra due anni? Perché? Ma poi che cazzo ne sa? Qualche sospetto mi potrebbe venire. No, se non si fa. C'è il suo think tank. Ma che ne sa lui? Non lo sa nessuno, ma chi è? Vabbè che conta più dell'OMS perché lo paga, cioè paga l'OMS il signor Bill Gates, però dai, su, la pandemia finirà tra due anni, ti è menagramo di un menagramo, dai su ragazzi, come cazzo si fa, dai. Dove andiamo? Paolo da Milano, vai Paolo. Ciao. Dimmi, io volevo riallacciarmi al discorso di Briatore, che naturalmente dalla sua grande scienza dice che si fa è molto peggio una polmonite normale piuttosto no, lui che ha COVID. Detto che ha preso una polmonite più forte certamente . E sicuramente dice tanto si può guarire eccetera, però questi personaggi ti danno delle informazioni senza dirci esattamente che quando ho preso la sua polmonite, cosa l'ha presa, cosa non l'ha presa. Lui racconta la sua esperienza personale. Vabbè, e allora? Anche Berlusconi ha raccontato che ha preso ha avuto la carica virale più alta tra quelli del San Raffaele, eccetera. Ma io non ci credo a questi qui, secondo me. Qualcuno dice che bisogna credere a queste robe qua? Cioè, queste sono robe di propaganda, non ce ne frega un cazzo, la carica virale è altissima. Allora, queste robe qui, d'accordo. Dai, Fabio da Genova, dai, Fabio da Genova, dimmi. Sì, mi aggancio al discorso. Dimmi, Fabio, dimmi. Mi delucidate, fatemi la cortesia. Questi signori qua, come diceva giustamente il signore di prima, dove l'hanno contratto il virus? Ma non lo so, non si sa, nessuno lo sa dove uno prende il virus. Non si sa dove l'hanno preso. Prendi un posto, quando lo sappiamo più. Ma che ne sai dove si prende? Non è che c'è non è che si rintraccia l'origine. Ma non è vero, non si sa. È verissimo. È che poi prendono, partono via il cazzo, girano, fanno quello che vogliono. E allora perché non si può girare? Non ho capito. Che vuoi proibire alla gente di girare? Non ho capito. Vuoi proibire alla gente di circolare? Se sei positivo al Covid. Ma se sai di essere positivo, no, chiaramente. Se non lo sai, puoi girare. Per fortuna c'è una marea di gente accanto a te che magari è positiva, che non succede un cazzo. Succede nulla. La gente fa bene ad avere paura di fare il tampone, altrimenti ti bloccano le attività. Non puoi fare più un cazzo, bisogna avere paura di fare tamponi. Secondo me, tamponi e sierologici. Allora uccidi le persone, ma quando arriverà la nuova influenza, non rompere i coglioni, uccidi dai, i nostri su. Anziani. Ma giustamente, molta gente che io conosco, molta gente che io conosco che hanno attività economiche. Hanno paura di fare i tamponi, i tassisti, tutti noi, anch'io stesso. Perché se sei positivo sei fottuto e non hai niente, manco la febbre, sei fottuto, chiaro? Ma tu sei pazzo completamente. Come tu, se a te ti fanno il tampone e sei positivo e non hai un cazzo, sei fottuto. E infatti questo è quello che deve fare il governo, l'assegno per chi ha il Covid. Posso portarti un contributo di realtà su questa cosa? Mio papà, che ha 86 anni, mi ha detto che piuttosto che stare altri 3 mesi senza vedere le mie bambine, preferisce rischiare di prendere il Covid. Ma questo anche perché non nonni, è vita, ma questo anche non è vita senza vedere i suoi ma nipoti. Ma questo certo. E allora non rompete il cazzo, Andrea dalla provincia di Pesaro. Andrea dalla provincia di Pesaro, dai. Ciao, Andrea. Cruciani, buonasera, dimmi, velocissimo. Dimmi. Sì. Io avrei voglia di insultare Parenzo e Gottardo, ma sono molto simpaticissimi, quindi non lo farò. Ma chi tra i due di più? Dai, Andrea, forza, dimmi. Però come al solito Cruciani ha ragione, voi siete due cattocomunisti assurdi, comunque non comprendere che il fatto che l'immigrato senza permesso di soggiorno già espulso abbia ammazzato il prete alimenta le più becere, spaventose tendenze razziste, che per cui poi ce le ha già, perché lei dentro la testa ce le ha già, non alimenta un cazzo dentro di me, perché non c'è il razzismo? Ma lei è cattocomunista, buonista, noi invece no, non sono né catto né comunista, né catto né comunista. Tutti. La Zanzara. Vai tu, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Cioè, Cruciani, tu veramente stai dicendo che in Italia non esiste il problema dell'omotransfobia perché gli italiani amano pagare per andare a trans? Cioè, per te gli unici trans esistenti sono quelli che si prostituiscono? Cioè, tu la devi smettere di usare la Zanzara per curare i tuoi conflitti con la bisessualità. Prendila nel culo una volta per tutte, che magari ti si apre anche il cervello. Cioè, o ti fai inculare o ti fai curare. Allora, io vorrei dire una cosa al signor Parenzo. Io sono più di 10 anni che faccio la dominatrice e ho avuto schiavi appartenenti all'estrema destra, all'estrema sinistra e al centro. Quindi posso affermare con cognizione di causa che il BDSM è amato da tutti. Tenete i vostri figli a casa, insegnateli a combattere. Plin plon, informazione pubblicitaria. Comprate i miei libri ai vostri bambini, così impareranno che cosa vuol dire combattere per la verità e per la libertà. I due termini sono assolutamente sinonimi. Pazza. Mi permetto di consigliare L'ultimo elfo. Non vi perdete L'ultimo elfo, regalatelo ai vostri bambini. Plin plon. Allora devi sapere, caro Parenzo, plin plon, ha detto, ma non plin lo so, plon. Fa la pubblicità. Un'altra marchettara. proprio di prima, in alta fa la pubblicità ai suoi libri, comprate mamma i miei mia, libri, ma chi mamma se ne frega. Allora devi sapere, caro Parenzo, e anche Gottardo lo deve sapere, anzi Gottardo lo sa, che questa è l'unica trasmissione radiofonica, l'unica trasmissione radiofonica che riesce a candidare delle persone alle elezioni. Cioè siamo riusciti a candidare delle persone una all'interno. Una tragedia siete. Una grande operazione. Grande allora, operazione democratica. Allora, qui è la sostanza. Cioè, questa trasmissione è riuscita a candidare delle persone. Prendo le distanze alle elezioni non in Veneto. C'è due persone targate, certo. Zanzara, due targate miserabili, Zanzara due impresentabili, no. Due impresentabili, uno è nobile, uno è nobile, a differenza tua è di sangue nobile, no. No, a differenza di l'altra è la Lores, ricapitolando. Mezza sega e basta, no, davvero, mezzo sangue, davvero, mezza mezzo sangue nobile, non l'ho mai detto ma sì. Lo confesso, ma va, culo, certo. ricapitolando mia madre si chiama Caracciolo, ma chi se ne frega, posso dire chi se ne frega, e mio nonno sto cazzo invece, ecco, questo è probabile. Questo è molto probabile vista la biografia. Vabbè. Esatto, questo è la verità. Tu conosci i miei ascendenti. Questa è la verità. Questa è la verità. Piuttosto importanti. Qualcuno si anche. Qualcuno si chiama sto cazzo. Esatto. Vabbè, certo. Questa c'era è la verità. Allora, ragazzi, fermi tutti. Ragazzi, cazzo, ho annunciato una cosa clamorosa e voi vi disperdete in queste cose, e si mette a fare il marchese del Grillo quell'altro. Allora, ragazzi, la cosa fondamentale è questa. Questa emissione radiofonica disgraziata ha candidato due persone caso più unico che raro in una lista elettorale in la lista elettorale del partito dei Veneti, caro Parenzo, il partito esatto. Dei Veneti mamma con mia. L'unico programma, l'unico obiettivo di legalizzare la prostituzione. Uno è il come mitologico no? Conte Dolfin in, certo. Nel collegio di Venezia, della provincia di Venezia, e l'altra è la signora Lores Parenzo. La signora Lores a Vicenza, sono senza. Ma dove partito state candidati? Da noi, candidati alla lista, vai a vedere, certo, le liste elettorali. La lista del partito dei Veneti. Certo, sì, amico mio, per il consiglio certo. Regionale. Per il consiglio regionale. Cioè, questo scrivi è il punto Dolphin, fondamentale. Cioè, scrivi Dolphin di fianco al simbolo Dolphin, e il conte Dolphin potrebbe entrare in consiglio regionale. Anche quella certo. Corticata della Lores. Come sì, no? Esattamente, come sì, no? esattamente. Ma avete distrutto quel partito dei Veneti che si arriva al 1,5%. Il partito dei Veneti candida a Venezia niente proprio meno che il professor Zecchi. Quindi non prendere per il culo. E poi candida quella analfabeta della Lores. Beh, adesso non esageriamo, Dolphin e Zecchi sono molto amici. Allora, Pippo da Napoli, vai Pippo. Che vergogna, buonasera, ragazzi. Buonasera, parente. È la democrazia. Certo. Buonasera. Dimmi. Ciao Pippo. Ciao ragazzi, buonasera. Beppe, guarda, Giuseppe, io ti seguo da una vita, però cioè, basta, cioè, tu di Napoli, Stefano Alessandro, un'immagine storta. Io un'immagine, cioè un pizzaiolo, Gotham, no, io non ho detto Gotham, ma non ho detto qualsiasi problema, Napoli, no, guarda in casa tua in questo caso guarda direttamente in casa tua, un signore, un segno, no, io non creo nessuna immagine, amico mio, ve la siete cantata e suonata voi, allora aspetta, metti bene il telefono, sennò non si sente un cazzo, innanzitutto, primo, allora, il signor Giuseppe Vesi, che è un pizzaiolo a Napoli e a Milano, va a Milano, fa un video, dunque ve la siete suonata e cantata tra di voi, vi state massacrando, insultando, cioè, ma fa un video che adesso risentiamo, ma non mi interessa, sarà un singolo, comunque è un caso, non faccio una trasmissione di Napoli, Pippo, stai calmo, stai tranquillo, facciamo risentire questo signore che poi si è pentito, è andato a chiedere perdono pure ai Netturbini, con tutto rispetto per i Netturbini, anche ai parcheggiatori abusivi di Napoli, per dire oddio, ho sbagliato, ho dato una cattiva immagine di Napoli, mi stanno insultando, mi stanno sputando addosso. Questo è il punto: la permalosità, la violenza. E quando tu dici una cosa contro Napoli, o più o meno contro Napoli, ti massacrano, ti uccidono, ti fanno uscire da casa. Sentiamo Vesi, vai. Amici, la differenza tra Napoli e Milano, sapete qual è? Qual è? Che puoi camminare con il braccio fuori, con un Rolex, e non ti tagliano un braccio per subiglia. Poi si è dovuto pentire, capito? È andato a una radio certo. Locale per dire ho sbagliato, mea culpa, mea grandissima culpa. Ma se lo dici significa che ci credi, perché altrimenti che cosa lo diresti a fare? Non è che hai detto una teoria così strana, non è che hai detto che Bill Gates, no, hai detto semplicemente la realtà, cioè che uno è più tranquillo in un posto piuttosto che in un altro, diciamola tutta. Pippo, non ti rivolgere a me in questo caso, parla con questo pizzaiolo, rivolgiti al napoletano. Il pinguino di Napoli, pinguino di, come Gotham c'ha pinguino, tu sei il pinguino ma di Napoli. Ma non rompere i coglioni, perché... prenditela con quello, io non c'entro niente in questo caso, io sto raccontando quello che è successo. Luca dalla provincia di Milano, vai Luca, dimmi. Luca, fermi no. Tutti, c'è il Conte Dolfin, eccoci qua, Conte. Pronto? Eccoci qua, Conte, come stai? Pronto, buongiorno, anzi buonasera. Come andiamo, Conte? Hai sentito Parenzo, no? Mancava pure Dolfin. Sì, va bene, lui dice il primo testa di cazzo che si candida, però io mi candido con i soldi miei. Ma cosa c'entra? È una realtà. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega dei soldi tuoi? Io ho sopportato tutta l'estate che hai fatto la tappezzeria in quel programma. Ma che cosa? Oggi è 0,0 meno 1. Fermi tutti. Il Conte era uno dei pochi che guardava il programma, quindi ragazzi state zitti un attimo, un milione e ecco. Qualcosa allora Conte, sì, non ho capito, Parenzo, secondo Parenzo sei un miserabile praticamente, cioè, ma sei dal fine del buco del culo, no, miserabile non lo può dire perché sono l'espressione della democrazia, che un qualsiasi persona si può candidare, il Conte del buco del culo dai, va bene, grazie, molto gentile, ho detto chi se ne frega, non mi interessa nulla di Dolfin a me, se c'è un partito che lo candida, partito di disperati che candida uno come Dolfin, prenderesti forse più soldi. Comunque parliamo alla mia candidatura. Ma quale candidatura? Mi presento nel collegio di Venezia, va bene, seciava tutto, come candidato e seciava regionale. Pure la scheda gli seciava, e la scheda elettorale seciava. Guarda, ascolta, che è Ebete in lista, manca solo il divino Telma, aprire da nuovo le case di tolleranza, manca solo il divino Telma, legalizzazione della prostituzione, molto che bello. Da 2007 che erano prostitute nel 1958, perché guarda a differenza di te. L'ho studiato, adesso ce ne sono più di 150.000 per le strade. Questo è il programma elettorale. Ed è giusto di dargli un mestiere, sì, certo. È giusto di mettere nelle case, di legalizzarle, perché i veneti vanno in Slovenia, Croazia, Austria, Germania, perché devono andare di là, giusto, quando possono stare qua e pagare le tasse, pagare tutto, legalizzare tutto, e via le mafie nigeriane che controlla questa prostituzione e le maestresse e tutto Dolfin. Quello che conviene, cioè siamo nel 2020, è finito il bigottismo e le false moralità, giusto. Basta. Bravo Conte, è giusto bravissimo. Dare una svolta, e io dirò Veneto libero, autonomia al Veneto, autonomia. E aprire le case di tolleranza. Molto bene, ma che programma del cazzo, avanti tutta, Conte. Questo è importante, ricordati, sì. Parenzo, che io sono, sì, uno democratico, perché ho speso i soldi miei, certo, a farmi il certificato di non essere pedina senza macchina. Ha speso soldi suoi, tutto. Dunque perché devi rompere i coglioni? Sì, per carità. Ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe, certo, altro, vedi, che per dire queste stronzate avessi comodo. Speso i soldi del pubblico, ma ci mancherebbe altro. Ma guarda, io se fossi con gli umani che sono soldi senza, ma una parte del mio, a chi li dai? Una parte del mio mensile lo do in beneficenza, a differenza di te, sì, che non dai un cazzo. Ma io non devo dare, ma che devo dare? Mica sono soldi pubblici i miei, carrettino di un Conte, dei miei coglioni. C'entra un ma po' dai, di umiltà, ma umiltà di libri, ma umiltà di cosa, che c'ho quattro figli, ma vaffanculo, scrivi libri. Io per parlare con te dovrei essere pagato 50 volte pagato. Altro in più per io parlare sono con te, sono pagato troppo poco, Conte che dei miei coglioni, la giornalista ma che dai. Con te prende 1000 punti, tu prendi 0,01, io per parlare con te dovrei avere uno stipendio al cubo. Ascolta, mamma mia, a differenza di te, il popolo ascolta e sa, senti questa verità, il popolo ascolta e fa. Il partito dei veneti distrutto in due minuti, due il partito dei veneti porta un professore a Venezia dove la cultura per 4 anni non c'è stata l'assessorata alla cultura, perché non c'è stata l'assessorata alla cultura, e a Venezia che è una città importante, perché la cultura non è solo biennale, non è solo mostra cinematografica, è perché tutto quanto quello che concerne, io essendo veneziano sento questa mancanza, un conservatore che va a pezzi, musicisti che vanno via, biblioteche allagate. Venezia è unica capitale d'Europa. Questo è un candidato, ragazzi. Questo è un candidato con i coglioni. Altro che i programmi televisivi. I programmi televisivi. E non fai beneficenza a nessuno. Non dai soldi a nessuno. E Parenzo non dai soldi a nessuno. Capito? Mentre lui darà una parte dei soldi in beneficenza dove dovesse essere eletto. Possiamo già dire che queste persone non riceveranno una lira perché non andrà in consiglio regionale. Il sondaggio di Veneti è il terzo partito a Venezia. Il minestrone che hanno fatto per il sindaco Segale a tutti i democratici, va bene, andiamo comunque ragazzi, il programma regionale è autonomia e puttane, potremmo sintetizzare così: autogoverno e far vivere le città storiche portando gli abitanti dentro le città, facendoli emigrare per dare le case in affitto agli americani o fare lavoro. Le persone emigrano dal Veneto, se sei tu un coglione come te, questo accadrà. Rappresentanti di come diceva Toffolo, Toffolino Toffolo, una città con le comparse, saranno le comparse perché gli residenti stanno andando in tutto via. Questo è un altro discorso. Però pensa che Ebete, la cosa fondamentale, perché lo insulti? Perché l'insulto fa parte di uno che non ha argomenti, e allora insulta. Comunque, ragazzi, le case chiuse a Venezia sarebbe straordinario. Veneto, per risolvere questa situazione complicata, il Covid, dovrebbero legalizzare oggi contro legge italiana le case chiuse. Sono bombe le prostitute che girano per le strade e nessuno è andato col furgone della US a fargli il tampone obbligatorio. No, quello non si può, perché è illegale, sennò diventa legale. Ma che cazzo di discorso è? Cosa dici? Bravo Conte, bravo, all'attacco. Questo è un candidato, non queste mezze calzette che siete voi, che David, i tuoi amici radicali del PD, eccetera, che non fanno il pezzo. Viva il partito di Veneti, lo dico un'altra volta. Fermi tutti. Candidata la Marchetta, ovvio, evidente, no? Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Dove sei, Veneti? Comunque io volevo dire che a 33 anni non ho mai avuto problemi di carie, ma da quando ho scoperto il piacere della pippa gordita al culo mi sono giocato un molare. Peppino, comunque è cambiato qualcosa qui sulla Salaria. Da quando Susanna ha denunciato quelle cose, la tua trasmissione dei rumeni, le cose, ci sono molte meno puttane. Ora è una settimana che non c'è più una troia. Come possiamo fare? Come possiamo risolvere questo problema? Troie, dove siete finite? Troione, dove state? Allora ragazzi, non so se vi interessa, ma c'è una polemica che riguarda quello che è successo a Roma, la cultura, la cosiddetta cultura che c'è dietro, no? Questa cazzata pazzesca. Quando succede una cosa di questo tipo bisogna subito andare a cercare dov'è, da quale cultura vengono questi signori, le ragioni. Non si può semplicemente pensare che il mondo è fatto anche di criminali violenti e picchiatori, punto e basta. Cresciuti in un ambiente in cui anche i genitori di questi ragazzi, allora, e l'ambiente circostante non sembra che dei più evoluti, diciamo. Ma cosa così c'entra con la cultura, diciamo, fascista così, per esempio, con la cultura fascista non lo so io se è fascista, o ma la sicuramente cultura di non so che cosa, alcuni dicono la cultura per esempio di chi vuole comprare delle scarpe a 1.000 euro, la cultura della cocaina o della droga, la cultura gente di Gomorra, un tenore di vita tre volte ma superiore tutte cazzate, o quattro volte che superiore cazzo, non è alla... che chi vuole avere un tenore di vita superiore ammazza la gente per strada, ma non vuol dire assolutamente tutto nulla insieme, tutto l'insieme, ma non tutte, è che sono poi, tutte cazzate di sociologia del puzzle e poi buttarlo lì così nella mangiatoia. Da qui una polemica tra Giorgia Meloni e la coppia Fedez-Ferragni. La coppia Fedez-Ferragni. Perché a un certo punto, come sapete, la signora Ferragni ha postato uno scritto che non è suo, in cui ha detto la cultura fascista che c'è dietro, quelli che hanno ammazzato Willy, che uno, non c'entra una bene amata sega, diciamo la verità, che non c'entra assolutamente nulla, né la cultura fascista, né la cultura comunista, che 5 contro 1, che è la cultura tipico, fascista, tipico, ma tipico di, ma che cazzo dici? Tipico di che cosa? certo, di che cosa? Tipico le dei criminali. Le retate fasciste che facevano. Ma che c'entra le retate fasciste? La violenza del ventennio era quella roba. Ma non cazzate, dai, David, non dire puttana. Le squadracce. Ma che le squadracce? Le squadracce come si muovevano? Ma cosa si muovevano dire? In branco, no? Dai, su. Senti la Meloni, senti la Meloni. Di che si arrabbia la Meloni, poi? Questi qui sono figli di un altro modello culturale. Sono figli dei modelli culturali di quelli che hanno venduto i Gomorra facendoci milioni per poi vivere nei loro salotti bene. Adesso. Sono figli di quelli che hanno propagandato modelli di rincorsa effimera al numero dei like, alla scarpa firmata, alla borsa che costava di più facendoci milioni. E sono figli di quei modelli culturali che ci hanno raccontato che la droga non era un problema, che hanno fatto finta che la cocaina non esistesse, che hanno fatto finta che gli spacciatori non fossero un problema, perché due di quelli erano ex spacciatori. Se le cose fossero andate come diceva la destra, quella gente non stava lì, è chiaro? Per cui è qualcun altro che si deve assumere questa responsabilità, perché io non ne posso più di sentire le idiozie. Allora, poi la Meloni ha detto che è fastidioso sia questo sia l'altro. Allora, sono due dibattiti folli. No, posso dirti una cosa? Poi ha detto anche che perché lei Fedez ha accusato la Ferragni. Esatto. No, ha detto che Fedez e la Ferragni dovrebbero fare una campagna contro la droga. Sì, la riferimento magari like era anche a quello. O a chiunque punta sui like. Ma non è che chi punta ai like ammazza la gente. No, cioè, ma che non ho detto, è un dibattito sclerotizzato da una parte e dall'altra. Senti questo Fedez, è il tema. Senti Fedez, senti la risposta di Fedez. Ho promesso di stare zitto, ma sinceramente non ce la faccio. Quindi, qualche giorno fa mia moglie ha ricondiviso il post di un profilo che parlava di un problema grosso di questa società, che è la cultura fascista insita in questo paese. Bah, non c'è problema grosso di questa società, a mio parere, ma andiamo avanti. Poi c'è anche la nonna di Fedez, no? Sì. Che l'Italia vorrebbe Mussolini, ma questo è un altro discorso, te lo faccio sentire. Guarda la nonna. Ma che senso, nonna, quando l'hai conosciuto? Quando mi ha dato. Io ho preso un premio da Mussolini. Ecco qua. Ecco qua. La nonna. Ma non è per questo. Perché io avevo 6 anni. Ma ho capito, nonna, ma non è che puoi valutare. Ma che premio era? Com'era? Allora, no, voi che credete nel Mussolini che c'è stato dopo, okay. Ma all'inizio lui ha fatto la marcia su Roma, adesso ci vorrebbe la marcia su Roma. Ci vorrebbe la nonna di Fedez, ma per carità, è chiaro, è vissuta del ventennio. Ma non c'entra niente la nonna con lui, però, no, scusa, ma cosa ho detto, lui è un grande, secondo me, anzi, è un vero antifascista. Senti, ma che vuol dire un vero antifascista? Che cosa c'entra il fascismo con quello che è successo con le Ferro? Non c'entra una beneamata sega, ma ve lo volete mettere in testa o no? Che state alimentando solo perché ci sono le elezioni, questa puttanata del della paura ma fascista stato, quello non è dici, dai su non funziona stato, dai. Dai, questa cosa ha scatenato le ire di tutti i giornali di destra, quindi vari giornali, Libero, di un sacco di persone, di quelle che hanno le bandierine italiane nel profilo, ogni tanto mettono anche la manina così, un sacco di militanti di Casa Pound che per loro stessa ammissione si sono sempre definiti fascisti del terzo millennio, che negano in qualche modo che ci sia un problema di cultura fascista in questo paese, ma che il problema sarebbe il modello Chiara Ferragni e Fedez, perché i criminali nemmeno si ispirerebbero a noi come Mickey e Mallory, e perché porteremmo avanti un modello vuoto e narcisista di questa società. Ragazzi, che puttanate, posso dirti? No, le puttanate che dice Fedez, non c'è nessun modello, questi erano semplicemente, chi sarà poi giudicato colpevole, dei criminali che non si ispirano ad alcun modello, né Gomorra, può darsi che erano fatti di cocaina, che si facciano di cocaina, ma questo esisteva negli anni 70, 80, 90, 2000, eccetera. Non c'è nessun modello fascista dietro, avete rotto il cazzo con questa roba qua, né fascista, né modello Fedez Ferragni, né modello cocaina, né modello come, non è che Saviano è l'ispiratore di questi qua che sono andati a ammazzare Willy, no, ma ragazzi, che stupidaggine, questo Irzak, l'hanno detto loro. Chi c'è? Irzak, chi c'è? Claudio da Roma, vai, Claudio, poi Irzak. Claudio, dimmi. Claudio, niente, Irzak, dai, forza, Irzak da Bari, forza. Allora, volevo dire un paio di cose a te, che sei un testa di cazzo che... Sì, veramente... sono qua. Intanto Noel Gallagher, aspetta un secondo, Fenomeno. Sì, basta, hai rotto i coglioni, basta, aspetta. Parlare, sempre rompi i coglioni, basta. Aspetta, Irzak, un secondo. Noel Gallagher, famoso cantante, eccetera, dice: non indosso la mascherina, se prendo il virus è un mio problema. Straordinario. Fermi, vammi Irzak, dimmi. Questa è della scuola vostra, questa dimmi. Qua. Allora? Volevo dirti un paio di cose. Sì, dimmi. Di cose. Allora, è morto. Allora, digli a quel testa di cazzo di Parenzo. Ma cosa hai detto io? Stai un po' zitto. Di cose. Perché quando parlano gli altri, deve stare solo zitto. Di cose. Un po' di nanero, te lo dico. Praticamente è morto Willy, no? È morto Willy, sì. Allora? Sì. Poi, quattro coglioni italiani, sì, coglioni di merda, sì, praticamente. No, criminale. Praticamente. Quante puntate? Lino Benfi. Praticamente, no, Lino Benfi. Ne parliamo purtroppo. Purtroppo, razzista di merda. Lo dici a tua nonna, a tua sorella e a tuo fratello, ma lo puoi dire anche a me. A me mi scivola addosso. Ma è da quando, purtroppo è arrivata questa tragica notizia che ne parliamo, amico mio. Ogni giorno, ogni santissimo giorno. Ma non lo so. Della signora Molasta che ha, tra virgolette, aggredito Salvini, sembra che gli ha fatto qualcosa, ha aggredito Salvini, quante puntate hai fatto? Ma non lo so, una, due, uguale, cioè non lo so. Che cazzo stai a dire, che sei stato una settimana intera a parlare di questa acqua? Tu sei un razzista. Ma questo è impazzito completamente. Tu sei nel 1880. Ti segnalo che siamo in onda da, sarà la settima, ottava puntata, ma questo è pazzo. Avrebbero fatto braccio destro del baffetto di merda tedesco e di quell'altro, no, che l'hanno ucciso. Questo francamente non credo. Questo francamente Tu, quell'altro, coglione, poi quell'altro con Brasile che si va a presentare con i fiori. Ma dove cazzo vai? Dove, che cazzo, c'è libertà di spostamento di pensiero? C'è, no, libertà, c'è libertà di omaggiare qualcuno? Devi rispettare, e non c'è né libertà di niente. Perché non si può andare a mettere un mazzo di fiori? Coglione, che ti vai a portare i mazzi per farti vedere? Questo è buono. Che sei un coglione di faccio, merda. Io, devi avere il coraggio di dirlo in faccia a Brasile. Devi avere il coraggio di dirglielo. Devi avere, il coraggio che non hai. Devi avere, no, non posso adesso perché devo chiamare un'altra persona. Un altro coglione che ci hai appresso, quello buonasera, intellettuale. Grazie per aver chiamato. Madonna, grazie per aver chiamato. Buonasera. Buonasera, grazie per aver chiamato. Buonasera, grazie per aver chiamato. Un coglione di quelli mai visti. Questa è la discussione. Ma tanto l'intellettuale, grazie per aver chiamato. Grazie per aver chiamato. Grazie. A prendere quei soldi. Grazie. Soldi. Ma così, come Benfi, tu sei no, Benfi, di no, tu, Benfi. Tu secondo me c'hai le carie, non hai i denti, al culo c'hai le carie, perché che pure fare pure tu, ma i bocchini, che elegante, quei ricchi, ma che personaggi culo, eleganti che chiamano qui, di razzista di ma merda. Che personaggi a eleganti a che chiamano qua, hanno violentato la, due tedesche, due svedesi, due tedesche, italiani. Due tedesche, non hai detto niente, siete dei razzisti di merda, ha parlato siete lui, solo ha parlato lui. Io tu hai sempre lavorato, lui, no? Coglione. Hai sempre lavorato tu, giusto? Che lavoro fai tu? Che lavoro fai tu? Quello col marocchino, che lavoro fai tu, Izak? Cazzi tuoi, che lavoro fai? Che sei un pezzo di merda. Vabbè, che lavoro fai, Izak? Te l'ho detto, se tu eri nato nel 1990, che lavoro fai? Saresti praticamente il braccio destro del baffetto. Sì, ma che lavoro fai, Izak, tu? Che lavoro fai? Per cazzi tuoi, ma lavori sì o no? Lavori o no? Ma lavori? Ma lavori sì o no? Guarda, no, che non faccio un cazzo, prendo il reddito di cittadinanza. Questo sì, va bene così? Questo, sì, mi basta questo, così? Mi basta questo. Cerca di avere il coraggio di dire. Mi sono adeguato. Sì. Salvini dice sempre: vi dovete adeguare, vi dovete integrare. Devi avere il coraggio, devi avere il coraggio, sì, di dire, sì, in faccia al brasiliano quello che pensi. Devi, sì, avere, anzi, il coraggio di dire in faccia, verità, nel senso, con un confronto radiofonico. Sì. A dire la verità, solo su una cosa sono d'accordo con su il coglione di Brasile. Solo su una cosa. Solo sul fatto che Madonna, ma cudalta, Madonna, ma solo sul fatto cosa, che io quegli altri, quei quattro là in carcere, sì, io veramente gli metterei non la scopa, ma non bello tubo do cul che già ha tirato. Eccolo qua, il democratico è arrivato, il democratico antirazzista, il democratico antirazzista, ma occhio dai, per su, occhio, dente per dente, coglioni, ciao, perché questo ciao, stato ciao, di merda. Ciao, ciao, ciao. Allora, grande ritorno, invito Parenzo alla calma, perché c'è un personaggio con cui ho avuto spesso delle discussioni, che però durante le ultime settimane ha detto delle cose molto pesanti su Bill Gates, sul Papa e su altri personaggi, su Big Pharma, su vari protagonisti che lui chiama l'elite che ha in mano tutto il potere, Rockefeller e quanti altri. Alessandro Meluzzi, fermo in... Eccoci qui, Alessandro, come stai? Buonasera, buonasera. Aspetta che ti sento lontano però. Ti sento io solo. Buonasera innanzitutto. Intanto lasciate che il mio pensiero pieno di cordoglio vada al sacerdote, come dire, che è stato pugnalato quest'oggi e al quale io questa mattina ho rivolto capito lo tweet, gli chiedo preghiera. Aspetta, mi potete richiamare, scusami Alessandro, poi ti faccio fare il ricordo di questo sacerdote e ci direi anche la tua su questo, perché molti sottolineano il fatto che sia stato ucciso da un signore, Parenzo dice non bisognerebbe sottolinearlo, da un signore tunisino, senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno. Cosa c'entra? Adesso torna il Meluzzone, fermi tutti. Mentre parla, torna. Posso solo sospirare almeno, non dico niente. No, tu ma puoi posso dire quello che vuoi. Puoi no, dire quello non dico che niente, vuoi. No, protesto, no, protesto. Puoi dire quello che vuoi. No, sospiro. Puoi però. Dire quello che vuoi. Sospiro, no, no, sospiro, no, puoi dire quello sospiro. Che vuoi. Mi sono già innervosito, mi stavo già innervosendo. Già no, innervosendo. Semplicemente sospiro. Stava facendo, stava ricordando quel sacerdote. Sì. Posso sospirare almeno. Ma tu puoi dire quello che ti pare. Posso puoi dire quello sospirare. Che ti pare. Semplicemente vorrei sentirlo bene, Meluzzi. Vorrei sentire bene le parole di Meluzzi. Vorrei sentire un bel collegamento solido. Un collegamento solido. Un collegamento importante, solido. Però nel frattempo Claudio da Roma, avanti tutta, dai Claudio. Meanwhile, Claudio da Roma, dimmi. Non ti sento, Claudio. Bene, andiamo pronto, bene, proseguiamo bene. Pronto. Dimmi Claudio. Pronto. Va bene, Luigi da Milano, avanti tutta. Luigi, dai, forza. Luigi, dimmi. Buonasera. Dimmi, buonasera. Dimmi, Luigi. Dimmi Luigi. Riguardo al video che ha fatto quel pizzaiolo napoletano Isi. Anche se in modo poco elegante, un po' da... Aspetta, da aspetta, spaccur- Alessandro, ti sento? Sì. Alessandro? Sento perfettamente, vi sento perfettamente. Eccoci qui. Ecco, io voglio capire una cosa. Secondo te cosa significa? Perché Parenzo lo liquida come un fatto puro di cronaca. L'assassino, certo. L'assassino di quel brutale, prete là. L'assassino di quel prete che era considerato il re dell'accoglienza. Io credo che sia molto di più di un fatto di cronaca, nel senso che c'è un sacerdote che io credo sia morto martire e credo che prima di morire abbia avuto anche il tempo di perdonare il suo aggressore. Come nel costume dei cristiani, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Naturalmente questa cosa non esclude una valutazione sullo stato delle città italiane che sono ridotte in molte situazioni in delle vere e proprie malebolge e su questo bisognerebbe discutere. Cioè, secondo te è il frutto dell'immigrazione incontrollata, cosa di questo tipo? Questa cosa io credo che sia una vicenda che può essere letta in un certo modo. Se noi parliamo di un martire che in qualche modo accettava e metteva nel rischio la possibilità che questo gli potesse accadere. Se questo fosse accaduto ad un passante, la lettura del fenomeno sarebbe diversa. Cioè, non ho capito, io voglio capire una cosa. Secondo te questo signore qua, che era uno di quelli che accoglieva questo prete, ucciso dalla mano di un signore che doveva essere, come dire, in realtà aiutato... Un tunisino che aveva avuto due decreti di espulsione, che non era stato... Sì. E questa è la responsabilità dello Stato italiano. È il fattore che riduce le città delle malebolge sempre più pericolose. Ma questo lo dico. C'è un responsabile, il mandante morale di questo assassino. Chi è? Questo è il punto. Dillo tu chiaramente. Il mandante morale è il magistrato che non l'ha espulso, il mandante morale è il ministro degli interni che non frena la migrazione incontrollata, il mandante morale sono tutti coloro che non garantiscono la legalità e il diritto di cittadinanza nelle città, il mandante morale sono tutti quelli che stanno trasformando l'Italia da questo punto di vista in un luogo molto molto pericoloso. Capito Parenzo, cosa c'è da dire su questo? Cioè, perché Parenzo sospira quando Meluzzi dice che il mandante morale di questo assassino è il ministro, tra gli altri il ministro dell'interno che non ferma l'immigrazione clandestina. È la brutalità di un crimine, è un crimine di un criminale, non c'entra il colore, è un criminale come purtroppo ce ne sono di tutti i colori della pelle, come ci sono degli idioti e alcuni interventi vengono alla trasmissione radiofonica. Io sono molto pacato e molto anch'io molto. Allora io vorrei però che questa stessa pacatezza la mettessimo nei ragionamenti. Però io vi dico una cosa: quando quei due orrendi delinquenti hanno ucciso quel ragazzo, due, tre, quattro delinquenti non si sa ancora, quanti fossero, cosa si è detto? Si è detto che erano dei malati di mente? No, si è detto che erano la cultura fascista, eccetera eccetera. Quando quell'altro personaggio, non si capisce se ha urtato, ha preso a calci la moto, come dire, del convivente e della sua sorella che ne è morta peraltro. Sì. È stato detto che era un povero disturbato da problemi. La cultura omofoba. Allora, io non capisco questo doppio pesismo, Parenzo. È un doppio pesismo. Non è che tutti i tunisini massacrano i preti. Ma cosa c'entra? Che testa hai? Fermala. Lui ha detto che è frutto di una cultura che è quella dell'immigrazionismo incontrollato. Ma non cosa c'entra? Ma non è che se 400.000 immigrati accoltellano i preti per strada? E allora cosa c'entra l'immigrazionismo? I criminali esistono dappertutto, come i coglioni esistono dappertutto. Il 30% dei reati urbani sono fatti da migranti. Chiedono le questure. Ma che cos'è? L'ufficio Studi Meluzzi? Il nuovo centro Studi Meluzzi? Fermi là. Del centro studi Alessandro Meluzzi. Aspetta, Alessandro, c'è un'altra cosa che riguarda Bill Gates, che è importante. Tu hai detto una cosa, no, ma mi sembra che stiamo discutendo più o meno in maniera pacata. Ma allora, almeno discutesse quel povero uomo. Allora, povero uomo, sì, Bill Gates, perché lo consideri il capo di un'elite? Tu hai parlato, hai detto delle cose gravissime. Bill Gates è il capo di un'elite. Di un'elite che, tra l'altro, dopo aver distribuito vaccini pericolosi, lui, e questo ce lo dicono. Ma meno male. Aspetta. Ma meno male che dà i vaccini. Dai, dimmi. Lorenzo mi interrompe, chiudo. Cruciani. Ha ragione, dimmi. Allora, oggi Bill Gates ha detto che l'epidemia durerà 2 anni, avrà la sfera di cristallo. Sì, follia totale, sì. Speranza ha detto che durerà fino alla primavera, Bill Gates dice che durerà 2 anni. I cinesi dicono che è già finita, perché in Cina, Wuhan, dove è stato prodotto il virus, sono aperte le discoteche, i ristoranti e tutto. Allora, qualcuno mi deve spiegare chi ha spiegato a Bill Gates che l'epidemia durerà 2 anni. Non solo, ma dietro Bill Gates c'è un colossale business di natura sanitaria che tutti conoscono, che credo che anche Parenzo conosca, che credo anche voi conosciate, e che lo rende il personaggio di punta di un mondo di elite finanziarie che punta sulla sanità e su una certa polizia sanitaria planetaria, addirittura, che credo produrrà grandi danni all'umanità. Ma tu hai parlato addirittura produrrà anche ai figli di parente. Mi spiace per lui, perché un minimo di ragione dovrebbe pensare e far indurre a un padre di famiglia i criteri di prudenza. Scusami, ma tu hai detto che c'entra anche Satana, il 666, la bestia. Vai, cioè, qual è la storia? Il segno della bestia è quello che il libro dell'Apocalisse, che io credo Parenzo conosca, dice che ci sarà un giorno in cui verrà messo un segno sotto la pelle degli uomini, senza il quale non si potrà né comprare né vendere, quindi non si potrà vivere. Il sogno di Bill Gates, che ha dichiarato in un convegno di quello di mettere un elettrodo sotto pelle agli umani, ma io l'elettrodo sai dove te lo metto? Per distribuire farmaci, per rendere tracciabili. Tu parli di un'elite di criminali, praticamente. Stai parlando di un'elite di terrorizza e che dovrebbe terrorizzare qualsiasi persona di voi. Cioè, stai parlando di un'elite di criminali, praticamente, criminali che io vogliono sottometterci. Di un disegno verso l'umanità che trovo terrorizzante. Chi persegue disegni terrorizzanti verso l'umanità del futuro probabilmente è un criminale, concetto di criminale è un concetto morale, naturalmente. Tu hai detto ci vogliono ridurre come zombie, come robot. Il Papa è un finto Papa e vuole l'invasione afro-islamica in Italia. Hai detto delle cose gravissime. Non facciamo una gran confusione. Una cosa è Bill Gates, un'altra cosa è il Papa, che lì, adesso non lo dico io, ma lo dice lui, ad ogni angelo, ad ogni preghiera, anziché parlare di altre cose, parla di una cosa sola: i migranti, come una cosa maniera. Questo è vero, però è vero. Una cosa, ma che ne sai? Ma è fissato con i migranti, dai, che sia fissato con i migranti, non c'è dubbio. È un tema epocale. Il tema delle migrazioni è un tema epocale. Proprio per questo va frenato, va controllato. Ma certo, ma chi dice nulla? Bisogna spalancare i porti. Perché se il Papa dice che bisogna spalancare i porti, si mette in moto mezza Africa. Ma che deve dire il Papa? Si mette in moto mezza Cosa Africa. Deve dire questo il Papa? Il Papa, che per fortuna non è un pope, per fortuna Meluzzi, non tutti i pope, per fortuna. Però posso dire che sul Papa ha ragione Meluzzi, Che il Papa non ha l'ego tuo, che dice noi, Alessandro Primo. Della città del Vaticano. Ma va a quel paese. Bisogna tenere aperti i porti, continente di miliardi di uomini del solitario. Ma il Papa almeno non ha l'ego tuo. Infatti, se voi provate ad andare alla città del Vaticano, troverete le porte chiuse. Ancora con sta strozzata. Cominci a spalancare le sue ancora con sta strozzata. Ma chi è più ancora pericoloso, Alessandro? Chi è più pericoloso? Big Pharma e l'elite oppure il Papa? Diceva Don Milani che la cosa più immorale che si può fare è promettere quello che non si può dare. È il massimo della violenza che si possa fare. Ma tutto quello che fa la Chiesa in giro per il mondo, la Caritas, tutto quello che fa la Caritas, ma che dici? La comunità di Sant'Egidio, ma che dici? Non sai nulla di niente. distribuisce briciole rispetto a quello che sta ripetendo. Ha parlato lui, il Pope, il falso Pope! Ha parlato lui, il falso Pope! Che c'è? Falso Pope! Alessandro! Arrivederci noi, Alessandro Primo! Ma vaffanculo! E però questo continuo linguaggio d'odio da parte di certa sinistra, e l'attore, lo scultore, il cantante, il professore, l'intellettuale, e Tizio, il merluzzo, il pesce palla, e la sardina, e l'intellettuale, e l'attore, lo scultore, il cantante, il professore, l'intellettuale, e Tizio, il merluzzo, il pesce palla, e la sardina, e l'intellettuale. E Salvini è brutto, e Salvini è pericoloso, Salvini è fascista, è razzista, è nazista. E Salvini è brutto, e Salvini è pericoloso, Salvini è fascista, è razzista, è nazista. È razzista. No time to rest. È nazista. Sei razzista. What you hear is not a test. Sei nazista. La zanzara. Avete presente Brigitte Bulgari, la pornostar? Una volta ho chiesto a un mio amico: ma tu per una notte d'amore con Brigitte Bulgari ti faresti pisciare in bocca da Brigitte Bulgari? Lui mi risponde: eh no cazzo. Io rispondo: anche senza notte d'amore, questa è la zanzara. Sono le 2:15 del mattino e io, al posto di andare a casa, mi sto rivedendo i video di Cruciani che si mangia i biscotti allo squirting. Ottimo, mamma. Beh, grandi ricordi, eh. Anni mi sono mantenuto distante da tutte le droghe. Poi si deriva di voi, bastardi. Che c'entra? Con Cruciani c'è biscotti allo squirting. Che c'entra? Mamma mia. Allora ragazzi, nuovi video, nuovi contributi. Hai ragione contributi. A voler affrontare questo argomento. Fai molto bene. L'accordo tra Israele, Emirati e Bahrain è un nuovo Medio Oriente, ha detto Trump. Sì, sicuramente, molto bene. Sicuramente. Si disegna. Io sai credo che Trump che dovrebbe, dovrebbe avere il Nobel per la pace, secondo me. Beh, cioè, secondo me Trump dovrebbe avere il Nobel per la pace, il premio Nobel per la pace. Però sicuramente qualcuno in politica l'ha proposto, estera qualcuno ha fatto proposto. Meglio che in politica interna, sentilo, questo è sicuro. Sentilo, in politica estera ha fatto meglio che in politica interna. Solo perché il figlio israeliano in maniera sbaccata. L'operazione che ha costruito con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain. Andiamo al poeta. Però affrontiamolo se vuoi, no, approfondiamo. Non affrontiamo. No, è meglio non approfondiamo. Il poeta, è meglio il poeta, il poeta. Nuovi contributi dal poeta Massimo. Senti. Io fondamentalmente mi considero un filosofo perché a 16 anni ho avuto una crisi esistenziale per cui non volevo più vivere, perché la vita non aveva senso. Non ma come un filosofo, un ignorante di prima. Aspetta, aspetta. E mi sono salvato, per così dire, in per un fatto fortuito, guardandomi allo specchio, dice cosa c'entra? Guardandomi allo specchio, da ragazzo 17enne che si sentiva carino, bello, che doveva andare alle ragazzine, eccetera, eccetera, mi pettinavo e vedevo che alzavo le sopracciglia. Dico, ma perché se tu ti pettini e alzi le sopracciglia? Perché? Ti compiacci, ti senti bello, mi dicevano. Ecco, dico, ma allora perché se ti senti bello sei costretto a alzare le sopracciglia? Il sentirsi bello è un fatto spirituale. Allora? Modificare il volto è un fatto materiale. Certo. Ma che ci sia una relazione tra la psiche e la materia? E allora questo è stato l'input che ha spinto tutta la mia vita alla ricerca delle relazioni tra lo spirito e la materia. Capito? C'è capito perché è diventato un filosofo il poeta? Cioè, hai capito perché è diventato un filosofo o no? Ma io non lo chiamerei filosofo, francamente. Perché però non scopava? Perché aveva 17 anni, non scopava. È tornata la marchetta. Filosofo. È tornata la marchetta. Buonasera Marchetta, come sta? Fermo la, le come guerre. Parito ha iniziato a scopare ben dopo il liceo. È tornata la Marchetta. Lo sanno tutti a Padova. È che ha iniziato a scopare tardi e male. Tardi e male. Le guerre sono causate dagli UFO. Io dico, guarda, senti, mi sono riproposto di non attaccarlo più perché non si fa, mi hanno detto, non si fa. E quindi... Le guerre sono causate dagli UFO. Chi l'ha detto questo Gottardo? No, il poeta. Ah, scusa. Il poeta. Ah, scusa. L'origine delle guerre? Lei crede che l'origine delle guerre sia motivi economici, quelle, no, come dico, UFO. O politici? UFO. Come gli UFO? Perché gli UFO non esistono, però esistono. Gli UFO non esistono, bene, però esistono gli angeli, esistono i demoni, ma non esistono. Ma esistono o non esistono? Esistono, ma non esistono. Allora ragazzi, ci sono tante altre cose, tanti altri contributi del poeta, però io andrei a questa cosa qua, la zona della grattata. Il perineo, la zona della grattata. Voi dite perché vi faccio ascoltare? È interessante. No, ma senti, il senti poeta questa... passa dalla fisica quantistica dell'esistere e non esistere finché non apri la scatola col gatto dentro, per esempio, sì, al perineo. Senti, senti questo, senti questo. È chiarissimo che uomo e donna sono identici, in cui c'è una femminilità che è nell'ano, una maschilità che è nel clitoride o nel pene. In mezzo c'è il perineo, una zona neutra. Che cos'è la zona neutra? La zona neutra è una zona importantissima. Importantissima. Importantissima perché è la zona delle grattate. Beh, sembra, io lo dico con grande serietà perché è una cosa molto importante. Perché se ritorniamo al discorso che la femminilità o la maschilità è sempre un surrogato di violenza, quando lei gratta una parte del corpo, si gratta il naso quando le prude, perché sta bene se per esempio, ah, come sto bene a grattarmi il naso, no? Aspetta. Oh, grattami la schiena, ah, come sto bene se mi gratto la schiena, perché questa grattata non è altro che una violenza fisica che imponiamo in quella zona neutra e che ci trasforma la femminilità potenziale in energie maschili e quindi ci dà delle non ho forze, un cazzo, aspetta, ma anche a livello biologico, a livello di guarigione delle malattie. Allora aspetta, mi sembra di capire che la grattata è una cosa positiva. Attenzione, grattarsi i testicoli, attenzione, arriviamo al punto. C'è l'uomo, quando ha dei proriti, scusi l'espressione, nei testicoli, no? Che si dice mi gratto i testicoli. Grattarsi i testicoli, ma proprio con maestria, sentendo dove c'è più piacere, meno piacere, lo stesso vale per la donna. Invece di darsi le cremine antiprurito, se si grattasse dove la sente figa, prurito, sì, lei così reagirebbe alla sua femminilità e si caricherebbe di energie maschili, biologiche, ma incredibili. Ancora su grattarsi i testicoli, fermi. Se, quando lei ha qualsiasi malessere, qualsiasi malessere per esempio, no? E si comincia a innescare per esempio una grattata nel testicoli, per esempio, sì, no? E lei sente che c'è una progressione, sì, e sente che c'è una progressione, mamma, anche nella reazione che lei sente, mamma, una reazione maschile. Dunque? Lei si sente sempre più violenta e lei quando ha finito si sente temprato in un modo che incredibile, orrore. Ma cosa ho preso il ginseng? Dunque, con la grattata ai testicoli si guarisce, ma questo, fondamentalmente. Ma questo c'ha le piattole. Ah, ragazzi, non è stupendo. Il discorso Erika energetico. Da Genova, dai. Non capace di organizzare niente. Erika da qui Genova. A presentarci come una grande vittoria. Il solo fatto che avete riaperto le scuole è una presa in giro che gli italiani non vedono. Capisco tutte le arrampicate. Erika da Genova, giù questo però anno, giù. Erika da Genova, dai, Erika. Buonasera a tutti. Dimmi, Erika. Mi aggancio a questo discorso del perineo. Giungo nel momento corretto, direi, perché io volevo introdurre un argomento, perché qua si parla sempre di fighe depilate, di pissing, di squirting, ma non si parla di un argomento fondamentale per me, che è la stimolazione della prostata. Da parte dell'uomo, della donna all'uomo, stai dicendo. E può avvenire in entrambi i casi. Io suggerisco a chi non ha mai provato di provare con l'autostimolazione. Scusi, signorina, non può avvenire in entrambi i casi. Le donne non hanno la prostata, ecco, quindi può avvenire solo No. Io intendevo entrambi i casi, cioè può essere la donna a stimolare la prostata del compagno o il compagno a stimolare la propria prostata. La propria prostata. Tu che cosa fai di solito col tuo fidanzato? Ma io sono una dominatrice, quindi pratico BDSM da tanti anni, quindi solitamente sono io, ecco che pratichi BDSM da tanti anni, dico dominatrice, ma immagino nella vita privata, non come diciamo, non ti fai no, pagare. No, no, no. No, nella vita privata con i miei compagni. Con sì, i tuoi sì. compagni. Che cosa vuol dire essere dominatrice con i propri compagni? Com'è che appunto. Esterni questa cosa? Com'è che la sviluppi, cara Erika? Beh, diciamo che di solito è una cosa che io metto sul piatto subito. Quando conosco qualcuno. Quando conosco qualcuno dici io sono una dominatrice e voglio praticare BDSM. Ma di solito cerco, cerco di conoscere persone dell'ambiente, ecco, cioè, così cioè, si può praticare insieme. Ma stai con degli schiavi o comunque o dei dominatori anche loro? Cioè, preferisci stare con degli schiavi di solito? 90% sempre schiavi. Nel rapporto che ho adesso a volte switcho. Ecco, a volte switch che vuol dire che stai con dei padroni, con della gente invece che ha più... No, sempre con il mio compagno, però a volte assumo io il ruolo di bottom, così si chiama. Bottom, dice di schiava sostanzialmente, okay. Diciamo. Sì, ma con uno schiavo nel 90% dei casi, dunque con uno schiavo. Di solito immagino che usi lo strapon, cioè fai questa... Sì, questa... di solito, sì. Cioè, tu sei stata fidanzata con parecchie persone che inculavi, questa è la sostanza. Sì, certo, ho anche iniziato molte persone che non avevano mai provato. Cioè, capisci, lei ha anche sverginato degli uomini che non avrò mai preso nulla nel culo. Sì, quegli uomini lì, dopo alcuni mesi, sono dovuti andare dal dentista, cioè hanno sviluppato delle carie. Guardi, dopo questa polemica qua sulle carie, ci ho anche riflettuto, ma io direi di no. Non hanno avuto seri problemi. Ecco, però io voglio capire da Erika una cosa: questo rapporto, che per Parenzo è un rapporto abominevole, naturalmente, un rapporto, diciamo, di. Certo, Parenzo è il bigotto della trasmissione, lo sappiamo. No, il bigotto della trasmissione, secondo lui, però effettivamente devo dire comunque, la verità. Sono il bigotto della trasmissione. In una coppia con lei che si incula con lo strapone, il ragazzo, il fidanzato. Se ti piace così festeggiare il tuo compleanno stasera, Cruciani, fallo, Cruciani. Non te ne pentirai. Io ti invito stasera a festeggiare il tuo compleanno a fare questa cosa qua. Facendomi inculare, ma chi se ne frega? Sì, però comincia con cose piccole, Cruciani. Tranquillo. Voglio capire, però, il bigotto sono tu sempre che cosa io per utilizzi? Qua. Per che cosa utilizzi? Il bigotto sarei io. Che cosa utilizzi con i tuoi fidanzati? Cioè, qual è la tua i luoghi della tua dominazione? Quali sono? Utilizzi degli oggetti? Ci sono delle stanze delle torture? Schiacci coglioni? Magari avercela. Stanza delle torture, no. Di solito si viaggia sempre con una bella valigiona piena di giochi. Ecco. E poi lì a seconda del momento si usa una cosa piuttosto che l'altra. Io spazio molto, ecco. Però voglio capire, tu la tua costante con i fidanzati è stata sempre questa, giusto? Mi pare di capire. Lo strapon, tu ti fidanzi con qualcuno, a un certo punto gli dici: guarda, amico mio, io sono una dominatrice e ti voglio inculare. Mi pare di capire. Io lo propongo. Ma vuoi provare? Magari piano, magari prima un dito, magari prima una cosa piccola. Hai tanta paura. Ma senta, Erika, ma poi alla fine il perineo dei suoi fidanzati è depilato o è peloso? Di solito. Tutto completamente depilato, anche il sedere, tutto quanto. Anche tutto tu immagino depilato, che sei depilata, no? Questi giochi si fanno troppo tutto da persona depilata. Certo, perché uno deve avere libero accesso, vedere bene quello che sta facendo. Ecco, Parenzo, questa chiaro. Qua è una ragazza normale, mi sembra, questa Erika allora, da Genova. Solo questo: definire questa persona una persona normale ci vuole solo il coraggio e il fegato di Cruciani. Non è una persona, dal mio modestissimo avviso, normale. Assolutamente no, ma io non voglio essere normale, appunto. Io voglio essere sopra la media. Io non voglio essere normale. Sopra, sotto, non so dove però si trovi lei. Parenzo sostiene questo tipo di relazioni sono delle relazioni che non appartengono al mondo perverse, della normalità. Perverse, un po' cioè perverse. Una ragazza che si mette lo strapon e ti incula. Sono relazioni normali, ognuno sa dire. In cui c'è quel gioco in più. Evviva. Io non mi impongo la mia morale, la mia visione, evviva. Volete fare quel gioco lì? Volete fare il trenino in due, tre, in quattro col fidanzato? Fatelo. Ma non ditemi però almeno che questa è la normalità. Fatelo. Esistono dei masturbatori prostatici specifici studiati per gli uomini da operare da soli. Parenzo, perché non usi un massaggiatore prostatico? Mamma mia, ma perché non ne ho bisogno? Ma perché non hai mai provato l'orgasmo con la stimolazione prostatica? Che è molto più forte. È molto più forte. Sa lei quello che faccio io. Ho detto molto, sono un'esperta, Parenzo. È una dominatrice. Ma fatti fare una penetrazione prostatica dopo per godere di più. Dopo 10 anni no? di lavoro insieme, posso dirti cosa? A me stanno sui coglioni le dominatrici. Posso dirti proprio dal profondo del cuore? Perché, Parenzo, le problemi? Le dominatrici, le reputo una follia. Che dicono che hanno gli schiavi, che calpestano i coglioni di quello, che frustano. Io penso che siete dei malati! Malati! Ma perché? Va bene? Ma perché? Si fanno cose che piacciono entrambi. Se una persona piace faccio una cosa. Uno che si fa inchiappettare, uno che si fa inchiappettare con lo strapone, uno che infila un cazzo di gomma dentro. Ma secondo te è normale? Ma non lo so, ma sarò strano io, figurati. Fermi tutti, ciao. Per avere orgasmi molto intensi è normale. È l'unico modo. Dai. Chiedo scusa un momento, chiedo scusa, pubblicità. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Buongiorno, sono di Napoli. Il fatto di Caivano si tratta soltanto di ignoranza e di persone di un posto lì degradato. È una mentalità ristrettissima ed è la vergogna che una sorella sta insieme a un'altra donna, è inconcepibile in quelle zone. Questo è tutto il risultato. Là di politica, di convegni, non ne capiscono un cazzo. Punto. E come mai da Pamela e l'altra ragazza violentata e uccisa non c'è andato nessuno? Allora direi di andare a Giovanni da Bologna. Nei giorni scorsi, fra poco... Aspetta, che è arrivato un messaggio. Allora, Mario Giordano pubblicizza giustamente, come giusto che sia, sui social, la puntata di stasera. Attenzione, mi viene già l'ansia. Stasera, Fuori dal Coro, inchiesta sui soldi rubati agli operai. Immigrazione, boss mafiosi assunti nei carrozzoni pubblici, quartieri abbandonati e sprechi della sanità. Ho capito, ma che è? Stasera Fuori dal Coro, inchiesta sui soldi rubati agli operai. Quali soldi rubati agli operai? Immigrazione, sempre. Boss mafiosi assunti nei carrozzoni pubblici, quartieri abbandonati e sprechi nella sanità. Cioè, tu dici una fotografia drammatica dell'Italia. Ma tu ti rendi conto? Ti rendi conto o no? E poi avremo un sacco di ospiti. Avremo Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri. Giovanni da Bologna, dicevo, nei giorni scorsi in un posto in Puglia, credo Fasano, una coppia di sposi omosessuali vanno lì e il cuoco di questo resort disegna un pisello su un piatto di portata, un pisellone su un piatto di portata, ridono, scherzano e loro denunciano un caso di omofobia, caso di non so che cosa. Ora ragazzi, non esageriamo, non è successo assolutamente nulla, questi si sono sentiti sicuramente presi per il culo, ma non è che se uno disegna un pisello in un piatto questo per forza è omofobia. Ma anche questo è normale, secondo te? Perché fai passare per normale cose che normali non sono? Ma non dico che sono. È normale, ma non sei, è un ristorante, caso di, vai di al ristorante e uno ti disegna un pisello, ma che roba è un chef? Ma sarà uno chef, è un cretino, non è uno Giovanni chef, Giovanni da Bologna, no? Vai Giovanni, dimmi. Ciao ragazzi, allora, io vi ho chiamato anche esattamente un anno fa perché ero stato per la prima volta con una transessuale, un anno fa, io ho 25 anni. Sì, ottimo, sì. Una bella vita sessuale, tante ragazze, sono un bel ragazzo e mi sono sempre e mi reputo tuttora etero, per quello volevo chiedere una consulenza a parenzo per capire. Sì, ma non ho capito, ma tu hai capito, un anno fa fa sei andato a trans, e adesso che cazzo hai richiamato a fare, scusa? Perché ci sono appena riandato. Che tu fai, una volta all'anno vai a trans, non ho capito. Ha fatto il tampone. Ho fatto proprio l'invito e ti dirò, la prima volta ho provato proprio, cioè, tutto quello che si può provare, no? Con la trans. Io perché dovrei credere al fatto che tu sia appena andato a trans? Ogni volta. Dovrei credere. Che... No, ma perché Raissa. Dovrei crederci? Posso ma... dire come si chiamava? Raissa. Dove l'hai trovato questa Raissa? Ah, su Google. Su Google, Raissa Bologna. Beh, allora qual è il punto fondamentale? Perché io mi trovo un po' in difficoltà, perché io mi reputo eterosessuale perché mi piace. Ma tu la sei figa. Eterosessuale, ogni tanto ti vuoi togliere lo sfizio di provare il cazzo, questo è il punto. Cioè, E poi volevo sapere anche da te, Cruz, se ti è mai passata per la testa la fantasia di farlo. Sì, a voglia, come no, assolutamente sì. Magari l'ho anche fatto, ma non lo dico. Però scusami, ho detto magari l'ho anche fatto, ma non lo dico. Magari, forse. Questa è una grande medaglia. Non ho detto un cazzo, sei tu che stai dicendo una cosa che io non ho detto. Io però la cosa che voglio dire, complimenti, Giovanni, ma io complimenti un cazzo. No, amico mio, mamma, ho detto magari l'ho anche fatto, ma non lo voglio dire, oppure lo dico quando cazzo mi pare. Giovanni, non ho capito una cosa, ma tu l'hai preso anche in quel posto, ce l'hai preso anche nel culo? Allora, sì, ma lo senti parlare, basta che lo senti parlare, che non mi è senti il tono di voce. È stato più il dolore che il piacere, sinceramente. E adesso? La seconda quindi non è stata completa, è stata più sull'orale, sui pompini. E ti dirò che lì è quello che volevo capire da parente, come lui vede questa cosa, cioè se siamo dei deviati. Sì. O è una cosa che un etero o una donna col cazzo è come fosse la super evoluzione. Ma non lo so, donna. Lei è confuso. Lei personalmente è confuso. Semplicemente ogni tanto vuole provare il cazzo. Una donna o una donna col cazzo non è una cosa strana. Ciao Giovanni, sei normalissimo, non ti preoccupare. Allora, una delle due persone omosessuali protagonista di questa vicenda a Fasano si chiama Denis Camaran, chiamiamolo, dai. Pronto? Pronto? Sì. Denis? Sì. Sono Giuseppe Cruciani, buonasera. Buonasera. Radio 24. Ah, Radio 24. Come stai? Bene, grazie. Ci stiamo riprendendo. Vi state riprendendo. Senti, io voglio capire una cosa. Qual è stata la cosa che vi ha fatto, diciamo, più arrabbiare? Il disegno, le prese in giro? Guarda, questa cosa ti ha segnato così profondamente che te la vogliamo lasciare alle spalle. No, certo, non c'è dubbio. Ma qual è stato l'episodio, diciamo, principale di questa roba qua? Non mi sento più di aggiungere altri commenti. Per il semplice fatto che a livello mediatico una recensione negativa, dopo un fatto spiacevole, ne è diventata una cosa... No, vabbè, ma questo è normale, è normale, diciamo, l'avete anche creata voi questa situazione, cioè creata nel senso dal punto di vista mediatico, ne avete parlato voi, per cui... Cioè... Pubblicare una recensione negativa... No, dopo, alcune associazioni, dico, hanno preso questo vostro episodio per dire che lì c'è stato un atteggiamento omofobo, eccetera, eccetera. È vero che voi avete chiesto poi, diciamo, una settimana in quella struttura, cioè di restare... Ma secondo te, noi due ragazzi 35 anni, amati rispetto da chiunque, passiamo l'ultima notte seduti in aeroporto guardandoci negli occhi e dicendo questa cosa che ci è capitata non c'è mai capitata da nessuna parte, ok, rimaniamo lì lasciando comunque pagato anche per quella notte lì in resort, saremmo stati comodi nel nostro letto piuttosto che stare su due sedie di metallo in aeroporto. Ma è quello che dice il signore, il proprietario della struttura. Ma il signore può dire quello che vuole. Può dire quello che vuole. Quando io ho semplicemente detto ci avete trattato male, non ci avete nemmeno chiesto scusa, ci dovete delle scuse formali. È così. Allora almeno dateci un rimborso, stringeteci la mano, dateci un caffè, una bottiglia di vino, per dire ragazzi, un abbraccio. No, ma perché lui dice che voi avete chiesto una settimana di restare un'altra settimana, una cosa di questo tipo? Abbiamo chiesto di rimanere un'altra settimana. Beh, guarda, io sono già al lavoro, già da lunedì che siamo rientrati. Mio marito è già al lavoro. Sì, no, ma va benissimo. Io non nego che siano successe delle cose. Io dico semplicemente che se uno pensa che questa struttura sia un posto dove ci sono delle persone omofobe che vi hanno trattato male in quanto gay, eccetera, poi non è che chiedi un rimborso, cioè non è che chiedi una roba. Certo. Cioè, se uno è omofobo lo denuncia questa presa in giro, punto e basta. Ma guarda, che tutto nasce che se fosse venuto a chiedere scusa, stringendoci la mano e dire mi sono comportato come un cazzone, le cose sarebbero finite. Cioè tu dici lo chef, lo chef. E lo chef, oppure anche che la proprietà, che è stata avvisata solo dopo, quando è venuta a farci le scuse, poi quando ha visto che la cosa a livello mediatico era diventata importante, non doveva ritrattare. Invece hanno ritrattato. Quando ha una parola, questa è... Denis, io sono padovano come lei, le sono solidale, però volevo capire una cosa. A proposito di cazzone, cioè, era il cazzo disegnato sul piatto che l'aveva poi sconvolta durante il viaggio di nozze? Allora, secondo lei che si servono o che comunque si portino a conoscenza i propri ospiti di un uccello disegnato? Ma certo. Poi ho letto questa ragazza dell'amministrazione che scrive le telecamere possono dire, ma le sono le stesse telecamere che possono dire che quando ci hanno chiesto scusa erano a bordo piscina con noi, che ridevano, che scherzavano, e che il giorno dopo invece hanno detto non ha chiesto scusa. Ma queste telecamere funzionano solo unilateralmente. Sì, però voglio dire, ma poi che scherzo è? C'ha ragione la persona. Ma io mangio e arriva un pisello sul piatto disegnato, mandate a quel paese, scusa. Ma una risata. Ma quale risata? Perché non vi siete fatti una risata davanti a questo uccello disegnato? Un po' di senso di l'umorismo. Ma perché secondo lei c'è da ridere quando, quando dicono ridendo e additando, mostrando questo... Vabbè, Dennis, se a me disegnassero una vagina, a me che sono eterosessuale, non mi la fotografo, la metto su Instagram, mi faccio una risata. Abbiamo criteri di misura diversi. Il cazzo mette allegria, Dennis. Cioè, se persino lei si adombra di fronte a un uccello, io non so dove andiamo a finire. Ma non è che mi adombro, ma io ritengo che non sia normale. Ma certo che non è normale, caro Dennis, ha completamente ragione. Ma sono anormali sti due qua, evidentemente. L'ultima volta al Gay Pride a Padova c'era gente che ma quello era mangiare per i fatti suoi con suo marito. Era con suo marito a mangiare. Non sono i cazzi dello chef sapere i cazzi suoi, per rimanere nell'argomento. Ma un uccello era una carineria, poteva anche essere una carineria. Spirito. Io appartengo alle persone che lo ritengono disdicevole. Anch'io, il cazzo è disdicevole. Il cazzo non è assolutamente disdicevole, perché sono il primo omosessuale a dire che il cazzo non è disdicevole, altrimenti non avrei un marito, ma avrei una moglie, punto. No, appunto, però voglio dire, quindi, una scenetta in cui due ridono, ma omofoba, perché se si può scherzare sulla figa, perché non si può scherzare sul cazzo? Ma io non si scherza col consenso della persona, però la persona non ha perché per te non si può scherzare col cazzo? Ma non ho detto questo, ho semplicemente detto che mentre ero a pranzo con mio marito, a me non fa piacere di venire additato, deriso, intuendo e facendo vedere agli altri ragazzi: portate questo piatto al tavolo, dove c'era disegnato un cazzo. Ma scusami, ha ragione. Ma se facessero una torta, se vi facessero una torta e me la portassero con un fascio littorio, prenderei la torta e gliela sbatterei in faccia allo straordinario cuoco. Ma questo dipende dal contesto. Esatto. Ma qual era la derisione? Scusa, la derisione qual era? Ti pigliavano in giro, dicevano questi brutti gay o dicevano froci? Hanno disegnato un cazzo. Ma uno perché? Ma non è normale se sei al ristorante per i fatti tuoi. Ma tu sei in un resort di primo livello che stai pagando, non sei mica degli amici che stai facendo una cena in goliardia. Vi siete persi questo passaggio. No, ma io l'ho capito benissimo, però mi sembra tutto un po' esagerato. Uno disegna un pisello, d'accordo, saranno pure quello che saranno, normale. Però chi se ne frega, dice vabbè, a me piace questo, a te piace un altro, lo fai portare via, li mandi a fare in culo, cioè Dennis, punto e basta. Dennis, le sarà capitato durante una festa di compleanno di mangiare una torta a forma di cazzo? Cioè, capita ogni tanto un addio al celibato con due palle di cioccolato. Ma è un altro contesto, tra amici. Mi scusi, quindi lei sta facendo una premessa molto importante, che è una sottile differenza. A lei sarà capitato ad una festa di compleanno, in viaggio di nozze dove lei paga. Scusi Dennis, ma come si permettono con dei clienti? È da licenziare sto chef, da prendere a calci del sedere e licenziare. Ragazzi, gli fai richiamo. Grazie della telefonata. Vabbè Dennis, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Un mio amico mi ha fatto ascoltare per la prima volta La Zanzara e ho scoperto la teoria del naso che pende a destra o a sinistra, ma il mio non pende né a destra né a sinistra. Per favore, aiutatemi a capire cosa sono. C'erano un altro paio di tips che pure vi volevo dare, visto che avevo detto che avrei fatto appunto questa mini live, che sono: uno, il fatto di, allora, se avete il buco del culo rotto, ok, quindi stiamo parlando a livello Super Saiyan, il buco del culo rotto può essere utilizzato molto molto bene nel momento in cui voi vi sedete sul pistillame, allora, di culo a lui, quindi gli date le spalle, alla sua visuale, che nella fattispecie è così. Allora, fermi tutti ragazzi, Donato da Varese, secondo me incazzato, molto incazzato, preoccupato per la storia del prete. Grande Donato, ti abbraccio, come stai? Ti abbraccio. Ciao Giuseppe, sono molto arrabbiato, il fatto che questo sporco, lurido, miserabile, clandestino, tunisino, con perché non ha chiamato perché non hai chiamato per i fratelli bianchi razzista razzista stonato da Varese con una serie di decreti di espulsione sulle spalle ha ammazzato un prete che peraltro questo prete che c'è anche per lui si deve interessare sempre degli stranieri sempre clandestini. Io da quando sono nato non ho mai visto i parrocchiani, i preti che avessero inglobato nelle loro chiese. Sei immigrato anche tu, sei immigrato da Napoli a Varese, cosa cazzo rompi coglioni? Buttati in mezzo alla strada, senza lavoro, ecco i preti non ho mai visto adoperarsi in questo senso. Prendono sempre i clandestini. Dovevano adoperarsi per cosa? Per farti cantare in chiesa? I clandestini secondo me dovrebbero essere presi, messi sull'elicottero e lanciati a 14 metri dalla stessa e farli cadere nel loro suolo. Quando tu li fai cadere nel loro suolo, vuol dire con gli altri 30.000, 40.000. Peraltro lui ci ha ammazzato anche la povera Pamela. Ma tu hai ammazzato la musica. Non si sarebbe trovato su questo suolo, assolutamente. Poi quel povero Willy, no, al funerale del povero Willy, la satanica sinistra, perché tale è. La satanica sinistra. Ve lo spiegherò. Secondo per secondo, perché la sinistra ha fatto un patto con Satana, la sinistra. Al funerale del povero Willy, al funerale del povero Willy, peraltro povero, tutta la mia solidarietà a quel ragazzo lì. C'era la Lamorgese, c'era come si chiama Zingaretti, come si chiama che non l'ha votato nemmeno un cazzo spagnolo. Il discorso è questo. Che invece al funerale della povera Pamela, che peraltro è stata mille volte più vittima, c'era soltanto la Meloni. La Meloni. Vorrei sapere dove era la politica allora ai funerali della povera Pamela, perché noi non ancora abbiamo l'idea di quanto la Pamela Masso Pietro sia stata trucidata prima che il respiro le mancasse. Donato viene trucidata ogni volta che tu usi la sua morte, ogni volta che tu usi la sua morte la trucidi. Gli assassini ce l'ha in radio. Gli assassini ce l'ha in radio, sono assassini, sono complici di questo. La Svezia lo sapete che è in mano all'Islam? Lo sapete che la Svezia è in mano all'Islam? Mentre quelli della satanica sinistra corrono dietro i razzisti, la Svezia è già in mano all'Islam. Lo sapete? I giornalisti, quelli tutti belli edulcorati, lo sanno che la Svezia non esiste più. Lo sanno che i tedeschi, lo sanno che i tedeschi la mattina con la paura che la testa gli viene tagliata. Dov'è l'Europa? Svezia? Dov'è l'Europa fraternizzata che io conoscevo fino a 30 anni fa? Dov'è l'Europa? Questa è un'Italia morta nelle viscere. Chi sa sempre parlare? Sono i criminali che l'hanno resa tale. I criminali, il PD, la setta satanica. Ma la Svezia, com'è che è morta la Svezia? Non riesco a capire, però. Bisogna fermarmi quei delinquenti. Ma la Svezia, la gente si alza e ha paura. Responsabili per esserti onorato con questi due criminali, Parenzo e Gottardo. Torniamo alla Svezia. Sono due criminali, potenzialmente sono due criminali. Ma la Svezia, tutta la mia solidarietà per il prete. Lei ha detto prima del prete, ma prenderei quel clandestino e lo farei a pezzi, Ma da cristiano mi potrei vergognare fino alla mattina all'ultimo respiro. Io non ho capito la Svezia. Lui dice la Svezia è diventata musulmana, prenderei il clandestino e lo farei a pezzi. Ma non ho altro da aggiungere. La Svezia è diventata musulmana anche per colpa di criminali come te. E lui farebbe a pezzi il clandestino. Cioè ci rendiamo conto? Sì, e me ne sentirei. Io sono cristiano, io non potrei mai uccidere i clandestini a maggioranza islamica. Tutti i tunisini che stanno entrando in Sicilia sono tutti guerrieri che dovranno farci sgorgare il sangue a terra ai nostri figli. Quelli sono i guerrieri che dovranno far sgorgare il sangue a terra ai nostri figli. Maledetti, siete maledetti, tutti maledetti. Maledetti, stiamo distruggendo l'Italia, la stiamo polverizzando. Quando muore un negro ci cacchiamo addosso, quando muore un bianco ce ne spacciamo il cazzo. Questo è un razzismo allo stato puro, il più idiota, il più criminale che posso esistere. Ma va avanti ancora tanto sto cretino. Responsabili direttamente. Hai intenzione di farlo parlare ancora tanto? miserabili. Mamma noi diciamo mia. Figli di puttane, cioè, perché è peggio di quando canta, è peggio di quando canta, anche dei grandi figli di puttane, perché hanno il cuore duro, sono immigrazionisti, sono islamisti, ma sono Gottardo pure, ma anche Gottardo, e gente di merda, anche Gottardo, gente di merda, perché la merda deve mangiare in Italia, questi devono essere mandati in esilio. In esilio, ma anche Gottardo. Con Gottardo siete con il calculo apparenzo. Guardi, Donato, le do un'informazione. Questo governo sta preparando un grandissimo campo per rifugiati a Varese, sotto casa sua. Sotto casa sua, no, ho avuto informazioni riservate al Ministero dell'Interno. Stia attento perché sotto la settimana prossima gli arrivano 200 nigeriani con il cazzo duro, alle 4.000 palandrane al giorno. Addirittura, sotto casa mia passano dalle 3.000 alle 40.000 palandrane al giorno. È la Mecca, è la Mecca, con un solo fine: islamizzare l'Italia, islamizzare l'Europa, islamizzare il mondo. Però qui c'è una notizia: il futuro dei nostri figli, uccideranno il futuro dei nostri figli. Qui c'è una notizia, però Parenzo, la notizia è che la Svezia è diventata islamica, mi sembra. Questo l'ho appreso in questo radiogiornale ora, mi pare, no? L'ho letto su Limes. Sì, l'avrà letto su Limes. E persone che hanno paura a svegliarsi la mattina, anche ho scoperto. L'Islam in Svezia ha detto che vogliono separare la Svezia in due stati: Stato islamico. Ma dove l'hai visto? Che l'hai visto? Da 2000 anni apostolico cristiano. Sono arrivati gli islamici e lo stanno trasformando in uno stato islamico. La Svezia è incriminabile, la comunità europea fatta piena di criminali, di gente che proprio meriterebbe di stare in galera e mangiare la merda dei clandestini Rampini anche, no? Per quello che stanno combinando, e questi hanno il potere di parlare in radio. Questi due carciofi miserabili, schifosi, luridi, che sento qui la loro puzza ideologica, dovresti eliminarli. Vengo io ad aiutarti, perché non è vero. Su Gottardo ha ragione, effettivamente. Pensandoci bene, su Gottardo ha ragione. Però scusami un attimo, Gottardo, tu che ne pensi di questa performance? Devo dire che è degna di. L'urlo disperato di grandi predicatori americani, mi ha ricordato grandi film anche sul mondo della radio, eccetera. Sì, certo, è l'urlo disperato di un cantante fallito. Sì. Che è conscio del proprio fallimento, sia umano che canoro. Io non devo mostrare nulla a questo miracolato. Però lui in privato sa cosa mi dice. Si avvicina e mi dice: sei un grande, hai avuto il coraggio di cantare. Sei un grande coglione, te l'ho detto. Hai cantato di merda davanti a 800 persone. Lui in privato era una cosa. Perché era si sente in radio, te. Provavo appena per te. Indebitamente in radio, provavo la mia musica. No, scusami, 12... cosa fa ascolto? Se la tua musica fa cagare. Preferisco il muezzin. Che prende le mie musiche e le fa sentire. Preferisco la Allahu Akbar alla tua musica. Giovanotti, tutta quella gentaglia di sinistra schifosa, si pensa che schifo Battisti, no? Celentano, senza cuore, senza anima. Celentano che schifo rispetto alla tua musica di merda. Sentito completamente dei criminali di sinistra. Quindi tu non sei andato a Sanremo perché c'erano i comunisti. Ospiti eccelsi, perché le musichette che li emanano sono proprio le musichette che fanno le cose. Fermi tutti. Fermi un attimo. Allora, Gottardo l'ha definito l'urlo disperato di un cantante fallito. Parenzo invece, domani comprerà un biglietto per la Svezia perché voglio andare a vedere in Svezia questo paese dove tagliano le teste. Che non sapevo. Se mi vuoi un pochettino bene a questo uomo che non vale un cazzo, dovresti mostrargli che ha detto una cazzata, ma almeno per rispetto di qualche cosa che non gli appartiene. Io non permetterei mai di dire che sua moglie fa la troia in via della Baldracca. Mai, certo, mi dice: ma come mai hai detto che mia moglie ha fatto faratò in via della Baldracca? E non ti preoccupare, lo dico io. Cosa c'è? C'è arriva un terzo, un giudice, mostrami che la moglie di questo cioccione fa la puttana in via della Baldracca ancora. Numero 7. E io ti do le prove. Però la cosa fondamentale prove, è questa. Tu sei. Denunciare. Va bene. Tu sei molto preoccupato per la storia del prete assassinato. Mi sembra di capire. Molto preoccupato. Sarebbe stato. Ogni tanto vorrei sentire che un imam venga ammazzato da un cristiano mentre si sta operando con tutto il suo amore per accudirlo. Ecco, vorrei perché questi bastardi islamici, attenzione, ancora, non gli islam, questo qua era uno non l'islam, ho detto, ma come si ma dice, questo non è neanche islamico, ma cosa dici, ma non è neanche islamico, questo è un criminale, basta. In Francia ammazzano sempre innocenti perché per loro il cristianesimo deve darsi fuoco, deve essere distrutto. E quelli inizia della tu, sinistra, inizia tu a darti due, fuoco. Come questi due lurli che da fuoco ai tuoi dischi di merda. Donato, ti abbraccio. Esempio. Ciao. Le grandi performance di Donato da Varese. Andrea da Pavia, vai, grandissimo. Ciao. Dimmi, Andrea, dimmi. Ciao, senti, io volevo fare un intervento per quanto riguarda il tizio che si è candidato in Veneto e vuole legalizzare le case chiuse. È il nostro candidato, cioè il nostro candidato candidato di punta per la legalizzazione della prostituzione. Grande battaglia radicale che viene qui portata. Ragazzi, qual è la trasmissione radiofonica che candida una persona nella lista elettorale? Per fortuna nessuna, per fortuna tranne questa. Ma io non capisco, Parenzo, come fai a non essere d'accordo? Allora, io tutte le sere faccio una strada, io sono in Lombardia, no? Sì. Io tutte le sere faccio una strada per andare dal mio fidanzato e tutte le sere... Fidanzato che sei gay? Sì. E no, per carità. È importante. No, perché, hai detto, dal tuo fidanzato, okay. Ho detto sei gay, non è che ho detto che c'era la lettera, ho detto sei gay. No. Allora? Per adesso no. Tutte le sere faccio questa strada, è buissima ed è piena di prostitute che ti... Proprio guarda, te lo giuro, che secondo me sono tutte minorenni. Non è che, ragazzi, non è che la situazione cambia se viene legalizzata. Come no? Può cambiare. Scusa, non è che immediatamente e tutte queste qua entrano nelle case chiuse, non è che si elimina la prostituzione di strada. Tu devi legalizzare e poi a quel punto proibisci la prostituzione per strada, la proibisci in maniera severa, in maniera forte. Adesso ovviamente è giusto che non sia proibito. Io sono a favore della prostituzione per strada, per esempio. Queste persone esercitano liberamente un mestiere. Qual è? Ovviamente la polizia deve andare a punire i papponi, il racket e la tratta delle schiave. Dimmi, Andrea. Ok, però io volevo fare un ragionamento. È vero quello che dici te, non è che sparirebbe tutto così all'improvviso, scomparirebbe nel nulla. Però oggettivamente a chi viene in mente di fare qualcosa di illegale quando c'è l'alternativa legale che c'è lì a due passi? Ed è un po' diverso. Andare in un posto, in un bordello, entrare piuttosto che andarsi a rimorchiare una prostituta per strada, qualcuno lo può considerare anche meno visibile, diciamo. Uno entra lì, ti fai vedere, ci sono delle persone, mentre là carichi quella per strada e non ti vede nessuno. Non è la stessa cosa, però le varianti possono essere infinite. Io davvero non capisco come fa apparenza a non essere d'accordo. Perché sono matti, vuole la cooperativa delle prostitute, tutte buttate. Sì, al massimo Marco quello, certo, D'Ancona, massimo ma io voglio gli quello. Imprenditori che invece fanno dei soldi su questo. Marco D'Ancona. Sono dei magnacci legalizzati, certamente. Ecco, c'è gente che fa business sul sesso, non c'è dubbio, io gestirei un bordello tranquillamente. Marco D'Ancona. Assolutamente. Io se potessi gestire un bordello, lo farei tranquillamente. Sì, certamente lo gestisco adesso. Però io ne gestirei uno vero, cioè potessi cambiare mestiere domani mattina, vedessi la possibilità di gestire un bordello, lo farei subito, domani mattina in Italia, farei il gestore di un bordello. Ma Marco D'Ancona. È per quello che hai deciso di far candidare il Conte, quindi. Assolutamente, il Conte e anche la Lores, poi ne parleremo anche domani. Il tuo Marco cavallo D'Ancona. Di Troia. Marco D'Ancona, vai. Dimmi. Due disperati. Ciao Croce. Dimmi. Sì, dimmi. Niente, volevo spezzare una lancia a favore del Brasile, che ieri me l'avete massacrato male. No, non l'ha massacrato. Gottardo e Parenzo l'hanno criticato per quel gesto che ha fatto, perché hanno detto che è un gesto, di esibizionismo solo per raccogliere i like, chiaro. Mentre invece secondo me parla Gottardo di esibizionismo, che so che c'è 4 anni che viene lì a sparare cazzate. È il mio lavoro, scusami, è il mio lavoro, e fare radio è il mio lavoro da una dozzina d'anni, sai? Volevo darti questa informazione. Il Brasile è un ex criminale, no? E quindi andare ai funerali. Andare ai funerali è un lavoro. Prendere like sulla bara di un ragazzino è un lavoro. Ma perché non è la scena politica italiana quel funerale? Che cazzo dici? A rappresentare le istituzioni. Ha ragione Marco, su questo. È andato lì a depositare una corona di fiori, punto e basta. Non rompete i coglioni. È uno. Questo è chiaro. Dai, è andato a prendersi like, dai. Viene da un certo tipo di vita, no? La realtà della criminalità. Allora quello si deve ricostruire un'immagine. Avrà pensato, poverino. Su un morto. Cosa? Usando un morto. Usando un morto. Usando un morto. La credibilità. Ma dai, su, ragazzi, niente, ma quello, la quello cronaca è la cronaca, è andato lì a mettere un mazzo di fiori, prendere dai, i like, su, perché lui guadagna, sì, sui like. Quando, fermi tutti, c'erano i fotografi, ma certo, grazie a cazzo, ma cosa vuol dire questo qua? Non è che tutto quanto è showbiz, anche questo un po' è showbiz, anche Conte che va là lo fa perché no, lo fa perché c'è la campagna elettorale. Fermi tutti, ragazzi, italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.